Radio 24 presenta Il sabato del villaggio di Marta Cagnola. Buongiorno, eccoci insieme con questa puntata speciale del sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio è il nostro villaggio globale, sempre la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali. Un sabato molto particolare questo perché siamo in onda dal Festival di Sanremo, da Sanremo anche per una volta nella terza ora del sabato del villaggio, ma dalla prossima settimana ovviamente torna anche l'appuntamento con RadioTube. Ma cosa succederà in questa prima ora del sabato del villaggio? La Liguria con il nostro gastronauta Davide Paolini. In collegamento da Milano parliamo di tecnologie e ancora musica con Enrico Pagliarini, ma subito, beh, tempo di bilanci. Ovviamente sono felice, sono contentissimo. Potevamo mettere la sigletta di pam pam pam pam pam pam pararata, quella di Mission Impossible. Non c'è dubbio che i risultati sono decisamente positivi. Come sapete, la prima puntata di questa edizione è stata vista da 11.134.375 persone, pari al 49,48%, un dato decisamente rilevante. Dobbiamo arrivare a sabato, c'è ancora tanto da fare, c'è tanto da pedalare. Come ho detto lo scorso anno, pedaliamo col sorriso sulle labbra, che è molto meglio che pedalare con la tristezza, però bisogna sempre pedalare e arrivare fino in fondo. E allora avanti popolo, spera in un miracolo. Dunque, a Sanremo è tempo di bilanci. Ovviamente ascoltiamo il primo vincitore di Sanremo, che è quello delle nuove proposte, che è Francesco Gabbani. Però devo dire che anche i due che abbiamo ascoltato prima, cioè Carlo Conti e Giancarlo Leone, sono un po' i vincitori di Sanremo. Per fare un bilancio abbiamo uno dei nostri amici preferiti del Sabato del Villaggio, il direttore di Sorrisi e Canzoni, Aldo Vitali. Ciao direttore. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, vincitori di Sanremo, almeno per gli ascolti sì, ma ti è piaciuto questo Sanremo? Ma io direi che questo Sanremo è scivolato via molto delicatamente sulle nostre vite, senza tante polemiche, senza picchi di volumi alti, di voci di litigate o di colpi di scena, di ospiti pazzeschi, eccetera. Però alla fine è stato un festival pulito, incerto, molto incerto anche nel risultato fino alla fine, e secondo me alla fine è stato forse, ecco, non avrei mai pensato che facesse questi ascolti così alti, perché è un po' simile a quello precedente, quindi manca un po' l'effetto sorpresa, però secondo me alla fine darei un giudizio positivo su questo festival. Perché hai usato l'aggettivo incerto? Incerto fino alla fine dal punto di vista del verdetto, perché l'anno scorso che vincesse il volo, dico che era sicuro, però certo c'era il volo e poi tutto il resto, no? E poi ci sono state, diciamo, si correva per il secondo posto, non è che è stata la sorpresa dell'anno scorso, mentre quest'anno è veramente un terno al lotto sapere chi vincerà, perché ci sono tante canzoni buone, non c'è nessuna superstar che ha messo, come il volo l'anno scorso, l'ipoteca sul festival, e questo incrocio di votazioni ha reso ancora tutto un pochino più complicato. Ti chiedo subito, qual è la tua preferita? Allora, la mia preferita... Teoricamente il direttore di Sorrisi non può avere una canzone preferita, no? Però ormai è sabato, sì. Allora a me piace moltissimo, più di una, cioè Clementino, mi piace molto la canzone di Clementino, mi piace molto dal punto di vista proprio della modernità la canzone di Fragola, di Lorenzo Fragola, perché è una canzone secondo me proprio anglosassone, un po' alla James Blunt, e poi mi piace quella dei Blue Vertigo, che ascoltata con attenzione due o tre volte poi invece diventa una canzone che va via, una canzone pop molto bella. Hai detto l'incertezza del verdetto e la qualità delle canzoni. Un tempo si diceva, però la musica non è quella che fa ascolti in TV, e quindi si metteva poca musica annacquata da tanti comici, tanto spettacolo. Poi Carlo Conti ha cambiato le carte in tavola e ha ragione alla fine. Sì, mi ero dimenticato Arisa, scusa, l'altra Arisa, è... Cioè... che sono innamorato, per cui... No, scherzo. Però è vero quello che dici. Sanremo è sempre stato un posto dove la canzone era quasi un'intrusa, non sempre, però negli ultimi anni, fino a qualche anno fa. dove i giovani cantavano alle 4 del mattino, dove invece comici e medici, chirurghi e qualsiasi cosa arrivava sul palco nelle ore di punta. Adesso Carlo Conti ha capito che invece la musica funziona se è fatta bene, probabilmente l'ha capito anche grazie ai programmi musicali che lui fa, come Tale Quale, come Migliori Anni, dove la musica ha un ruolo determinante, no? E quindi ha costruito questi festival sulla musica, non ha fatto nemmeno polemica il nastrino arcobaleno dei cantanti, quindi lui è riuscito, come dire, a cloroformizzare Carlo Conti anche delle cose che in altri anni sarebbero state scandalose o comunque frutto di litigati. Invece così tutti pensiamo alla musica e siamo tutti contenti e cerchiamo di capire chi vincerà stasera. Tutti contenti tranne i giornalisti dei quotidiani, perché riempire le pagine senza fare la polemica tutti i giorni è più difficile. Sì, però secondo me ci sono un sacco di cose da fare a Sanremo, se no, ora io non voglio fare polemica con quelli che fanno polemica, però per tanti anni si è pensato che il Festival di Sanremo dal punto di vista giornalistico avesse un senso solo se succedeva qualcosa di scandaloso e sempre in chiave ritriva rispetto all'ideologia del paese, no? Allora, non so, il paese è tranquillamente, faccio un esempio sciocco, ma non so, il paese ha accettato da decenni, centinaia di anni le ragazze madri, arriva una ragazza madre a Sanremo e diventa una polemica la ragazza madre, no? Perché? Perché c'era questo gioco di cercare la polemica a Sanremo, mentre invece il paese queste cose ce le ha su tutto questo genere di cose, quest'anno sono le coppie di fatto, eccetera, sono già molto più avanti di quanto. E quindi si cercava questo giochino qua, ma non c'era mai un'attenzione alla musica, mentre invece dentro la musica, dentro il festival, dentro le storie dei cantanti ci sono tante storie belle da raccontare, belle o anche non belle, anche storie drammatiche, che invece vengono completamente trascurate dai quotidiani. Poi ognuno giustamente fa quello che gli pare, però il festival di per sé, con la sua concentrazione di artisti, di storie, di musica, di novità, anche di politica, perché la RAI è tutta qua in questi giorni, quindi volendo uno la polemica non ci vuole niente a cercarla, invece si può trovare tutto quello che si vuole senza andare a cercare una polemica così pretestuosa. Quanto il festival secondo te ha raccontato la storia del nostro paese, tra i testi delle canzoni, la messa in scena? Ma sicuramente molto, ha raccontato tantissimo la storia del nostro paese, il Festival di Sanremo. E la cosa più divertente è che non è vero che il festival, almeno secondo me, che il festival è lo specchio del paese. Certe volte può essere lo stato, certe volte può non essere lo stato, ma comunque è sempre un po' fuori sincrono per un motivo o per l'altro rispetto al paese. Quindi l'ha raccontata o un pochino in anticipo o un pochino in ritardo, ma non è la fotografia del paese di oggi, per esempio il festival di quest'anno, almeno io non penso che sia così, per tanti motivi. È un momento di aggregazione italiana, che prescinde poi dalla passione vera che uno può avere o non avere per la musica o per la televisione, è proprio un appuntamento come il Super Bowl negli Stati Uniti, diciamo, che quindi prescinde. Hai parlato di televisione, di evento, ormai si parla di frammentazione, del fatto che non si guardi più la televisione in diretta solo e si guarda solo per i grandi eventi, del fatto che la TV si guarda on demand in un secondo momento. Sanremo invece è ancora lì? Ma guarda, io penso di sì. Allora, io penso che la televisione, la vera, poi so che tu sei una fanatica di serie televisive, quindi tu sei diretta, perché è impossibile vedere in diretta, però insomma no, scherzo. Però la forza di una diretta, secondo me, è la forza della televisione. Questo l'ho sempre pensato, e vale per il calcio, vale per Sanremo, vale per tutto ciò che tu, vale per i momenti drammatici magari di cronaca, per le drammatiche sere tipo quella di Parigi in cui tu stai attaccato alla televisione e hai la diretta. Ecco, quella è la televisione, secondo me, è la vera forza della televisione, la diretta. Poi naturalmente ci sono tante cose che non possono andare in diretta, e giustamente c'è anche tutto un linguaggio televisivo legato alla narrazione, che va benissimo. Sanremo è una di quelle cose che aggrega e si va a vedere tutti insieme in diretta, credo ancora succeda, si twitta tantissimo, ma la cosa interessante secondo me quest'anno è che lo share è stato lo stesso dell'anno scorso, cioè un grande, a prescindere dal grande successo che è stato, perché ripeto, anche per me è stata un po' una sorpresa, lo share è stato lo stesso, ma mancano, diciamo, 400-500 mila spettatori, diciamo così, grosso modo, a sera, no? Cioè non al festival, ma proprio alla platea televisiva. Allora, quelli lì dove sono in questo momento? Cioè dov'è che sono? È pensabile che abbiano, diciamo, abbandonato disgustati la televisione? Secondo me no. Secondo me quelli sono, sono i telespettatori che sono andati sulle televisioni on demand, che sono andati magari, poi si sono rivisti il festival il giorno dopo su internet, o almeno a pezzi, le cose che gli interessavano, che sono su Netflix, che sono su queste cose qui. Cioè sono telespettatori ancora non tracciati, ma che non credo abbiano abbandonato la televisione, hanno abbandonato la televisione, diciamo, generalista, questo sì. Dopo la generazione dei 50-55 anni conduttori, non ce n'è una nuova? Chi lo farà a Sanremo tra qualche anno? Ma anche perché tutti dicono Alessandro Cattelan, sì. Vabbè, uno ce n'è. Sì, ma poi anche, cioè, con tutto il rispetto, Cattelan è molto bravo, è molto spiritoso, però... Diciamo, il vero problema di Sanremo è che chi è venuto per cercare di destrutturarlo, se mi passi il termine, alla fine è finito male, no? Cioè Cattelan è giusto che faccia quello che fa, magari che si avvicini piano piano a una televisione più di massa, perché se lui portasse le sue idee molto buone, molto divertenti, così di colpo nella TV generalista di Sanremo, ma anche meno di Sanremo, ne verrebbe sbriciolato lui, sbriciolerebbe Sanremo, eccetera. Quindi in effetti questo problema c'è. Adesso tanto c'è un altro anno di Carlo Conti, per cui siamo tranquilli su quello, anche se lui aveva detto che per 2 anni conduceva e il terzo avrebbe fatto solo la direzione artistica, quindi vediamo. Manca una generazione di personaggi in grado di fare i conduttori del festival, però forse la vera cosa è che, a parte che ci possono sempre essere mondi che si avvicinano, dico una follia, Maria De Filippi piuttosto che, ma secondo me se c'è una direzione artistica forte, il Festival di Sanremo lo può condurre anche un non conduttore, un cantante, cioè ricordiamoci l'evoluzione di Morandi. Quindi se veramente Carlo Conti già all'anno 21 decidesse di fare un passo indietro come conduzione, molto probabilmente avrebbe già o ha già adesso una carta da giocare, che non è né Frizzi né quelli che lo sostituiscono nelle sue trasmissioni, ma qualcosa di più originale. Ultima domanda lampo, qual è il ricordo che ti porti di questo Sanremo 2016, così il primo che ti viene alla mente? I Pooh, visto che ti abbiamo visto ballare scatenato. Beh, i Pooh, io chiedo scusa a tutti. Chi ti ha riconosciuto? Chiedo scusa perché veramente non pensavo che le telecamere arrivassero fino alla 12ª fila dove mi trovavo tranquillo e beato. D'ora in poi starò molto più attento, perché poi c'era Risa subito dopo e ho dovuto trattenermi perché mi... Comunque, no, i Pooh mi sono piaciuti moltissimo, ovviamente, ma non a me, ma quella lì è stata una cosa proprio del teatro che è impazzito. Perché tutto il teatro si è alzato in piedi, si è messo a cantare loro stessi, un'energia incredibile, quindi questo è stato un momento, però secondo me soprattutto per chi l'ha vissuto dalla sala, dal punto di vista generale, io di questo Sanremo dico che mi sono piaciute alcune interpretazioni moltissimo. E quindi mi porto a casa una generazione di cantanti bravi, tanti cantanti bravi. E poi invece una cosa fuori Sanremo che ho visto ieri sera, di cui ti parlavo prima, un tuffo negli anni zero, sotto zero, i Blue Vertigo, Morgan con i Blue Vertigo ieri sera hanno fatto un omaggio a David Bowie in un locale vicino all'Ariston alle 2 di notte, hanno fatto un'ora di musica bellissima, tutte canzoni di Bowie, e con un grandissimo successo, ecco. E questo per dire che Sanremo è bello. Nel frattempo c'era Francesca Michelin, che in un altro posto stava facendo uno showcase di musica un po' elettronica, che aveva già fatto anche la sera prima, che è stato un altro momento molto bello. Quindi a me piace questa cosa, che Sanremo è il festival e poi come dire, irradia musica anche attorno all'Ariston, molto più magari coraggiosa di quella, ma è normale, dell'Ariston, che però dà il senso che a chi piace la musica, insomma, questo è un posto dove stare questa settimana sicuramente. Grazie al direttore di TV Stories e Canzoni, Aldo Vitali, alla prossima occasione. Grazie a te Marta, grazie a tutti. Il sabato del villaggio. E ci ritroviamo con questo speciale sabato del villaggio da Sanremo, ma certo, nonostante siamo in area di festival e in area di finale, un po' di languorino anche per questo sabato ci viene lo stesso. E quindi, siamo da Sanremo, però non possiamo fare a meno di collegarci, come sempre, più o meno a quest'ora con il nostro gastronauta. Ciao Davide! Ciao, buon Sanremo a tutti! Allora, a Davide Paolini non possiamo non chiedere che cosa offrirebbe, che cosa offre questa regione. Magari c'è già qualcuno qui questo fine settimana per scoprire qualcosa di bello, qualcosa di buono in Liguria. Dove ci porteresti tu, Davide? Ma guarda, io direi che vabbè, la gente ha noia a stare tutto il giorno a Sanremo per tutti i giorni del festival. Facciamoli andare fuori, facciamoli un po' girare, magari facciamogli fare anche qualche chilometro per trovare qualcosa di molto interessante. Devo dire che purtroppo a Sanremo non è che ci sia, insomma, il massimo della cucina italiana. C'è un ristorante stellato, ma so che i ristoranti stellati costano molto, quindi andiamo a mangiare magari in ristoranti che, diciamo, offrono buona cucina, ma a un prezzo, per così dire, calmierato. E allora io andrei, per prima di tutto, andrei alla Spezia, visto che siamo... partiamo dall'altra parte della Liguria. Partiamo perché faremo un lungo itinerario, Partiamo dalla Spezia e andiamo a un posto che si chiama La Posta. Ecco, io lo consiglio agli amanti anche di locali, per così dire, raffinati nell'arredamento, cioè quelli che magari hanno un qualcosa che li mette in mostra. Ad esempio La Posta, che è un ristorante di un patron che si chiama Claudio, lui ricerca sempre nel modernariato, e quindi si trovano dei lampadari molto particolari, si trovano dei quadri, ci sono una serie di pittori che espongono sempre in questo ristorante, e la chiave lì è che tu vai, mangi un piatto di pesce davvero straordinario, però ti puoi comprare anche magari il soprammobile che hai trovato nel tuo tavolo, bella idea. Magari di Murano, oppure puoi trovare un quadro molto bello di artisti degli anni 60-70, di cui Claudio è un ottimo conoscitore. Ma devo dire non solo questo, perché ci sono anche dei piatti interessanti. Addirittura molte volte quando si va lì alla sera si vede qualche pescatore che arriva, che porta il pesce, quindi come indicazione di fresco. Non è una messa in scena, perché io ho potuto acclarare che è vero, quindi non è che, perché ci sono molti ristoranti che si mettono d'accordo con i pescatori o con i macellai: venite alle 8:15, passate attraverso i tavoli e fate vedere il cestino. No, lì è vero, quindi c'è il meglio del pesce di sicuramente quel mare, e ci sono anche le ostriche del golfo di La Spezia. Ecco, questa è una chicca, ecco, perché questa cosa mi incuriosisce molto: le ostriche del golfo di La Spezia. Sì, si trovano abbastanza diciamo non solo La Spezia ma anche nei dintorni, ad esempio anche all'Erici, alla Doria Park Hotel, il ristorante Doria, ecco, si trovano anche lì, ma soprattutto Claudio è un cultore di questo. Nel periodo in cui ci sono, sicuramente lì si mangiano delle ottime ostriche del golfo di La Spezia, che sono ostriche naturali che per anni erano state abbandonate, in questi ultimi tempi sono stati ripresi negli ultimi anni. Ecco, questa è una caratteristica importante della Liguria. Certo, non sono come quelle di Cancale o quelle delle altre zone della Bretagna, però io le ho mangiate e devo dire che le ho trovate sapide al punto giusto e molto molto intriganti. Beh, poi ci piacciono sempre le ostriche, quindi facciamo il tifo anche per le ostriche liguri. Dove ci porti poi, Davide? Vi porto a Noli all'Hotel Palazzo Vescovile, il Vescovado, dove dalla terrazza si vede tutto il golfo di Noli, e in un posto meraviglioso. Addirittura d'estate si mangia tra gli olivi su in una terrazza veramente molto molto bella. E qui c'è uno chef che fa tutto il pesce azzurro, lui lavora molto il pesce azzurro, quello molto, diciamo, quello dimenticato. Quindi qui si trovano dei pesci magari che qualcuno quando sente dice: mi spieghi cos'è, perché non sono così diciamo comuni da trovarsi in giro. Quindi qui il pesce è veramente diciamo di qualità per i cultori, quelli che non hanno mai mangiato certi pesci azzurri come la palamita, per esempio, che molti confondono col tonno, o molti ritengono che sia così un pesce di serie B. In realtà io lo preferisco al tonno. Certo, si mangiano anche i tonnetti qui, si mangia del pesce spatola, per esempio. Anche questo è un pesce che è molto poco considerato, ma è veramente molto molto molto intrigante, molto sapido. Devo dire che devo tornare alla Spezia, perché mi sono dimenticato dell'Osteria della Corte. L'Osteria della Corte è un altro ristorante di La Spezia dove si mangia non solo pesce ma anche prodotti della terra: petto d'anatro, tartar di fassone, maialino di cinta, manzo. Insomma, prima ho detto un ristorante di pesce, qui si può andare in un ristorante dove c'è anche il pesce, però c'è anche, diciamo, la terra, quella che è considerata la terra. Poi andiamo a Savona. Ok. Qui c'è un'altra peculiarità, perché insomma anche in Liguria si trovano queste chicchine, come si dice. Allora ti dico come si chiama questo ristorante. È all'Hotel Mare, ma si chiama La Spurcaciuna. Ah, beh, il nome, ecco, già ci suggerisce che ci si può mangiare bene, dai. E sai com'è, qual è la peculiarità perché si chiama così? Sentiamo. Perché si può mangiare tutto con le mani. Ah, quello che da bambini non ci facevano fare, bello, mi sì, piace. Ma qui non è tanto per bambini, perché c'ha dei tavoli ad hoc dove scorre l'acqua continuamente, quindi ti puoi pulire le mani direttamente al tuo tavolino. E non solo, ma anche la qualità del pesce è veramente di alto livello. Si chiama La Spurcaciuna appunto perché ho i cinque sensi, viene chiamato. Tra cui appunto ha cinque zone questo ristorante, addirittura, tra cui uno si mangia solo con le mani, ce n'è un altro che si fanno degustazioni, un altro ancora che si chiama Chromo Dinner. Quindi diciamo che sono varie aree in cui tu puoi scegliere la modalità. Però io devo dire che uno che va in questo ristorante dove per una volta si può cacciare un bel tovagliolone quelli da bambino magari legati dietro e mangiare con le mani, secondo me è il massimo della goduria, come si dice, perché anche il pesce molte volte bisogna pulirlo fino in fondo, e non dico succhiarlo, ma quasi, insomma, ci sono certi pesci, certi crostacei che vanno veramente rifiniti con il succhio finale. Quindi La Spurcaciuna. Sono d'accordo, mi piace molto. Sì, La Spurcaciuna ti porto, vedrai che ti divertirai molto. Ah, perché questo mi piace. È tutto in libertà, quindi per la prima volta uno mangia, anche gli altri tavoli mangiano alla stessa maniera, per cui non hai quella ritrosia molte volte che trovi in posti tutto punta di coltello e forchetta, ti guardi attorno, tu vuoi dell'ultimo scampone, vuoi succhiare sulla chela, non lo puoi fare perché gli altri ti guardano. Perché non fa fino. E invece c'è anche il bon ton del pollo, il pollo si può mangiare con le mani, questo lo descriveva anche il monsignor della casa, l'autore del primo bon ton. No, anche mia nonna diceva che la regina Margherita mangiava il pollo con le dita. Io anche la pizza mangio con le mani, sì, vabbè. Sì. E passiamo oltre. Allora andiamo da Savona, andiamo a Imperia, e andiamo anche qui, c'è un ristoratore, uno chef molto bravo che si chiama Andrea Sarri, che ha distinto i due locali. Uno sulla banchina di Porto Maurizio, che si chiama Agrodolce, che diciamo che è il locale un po' più raffinato, dove il costo è superiore, però ne ha aperto un altro che si chiama Sarri, appunto, dove è molto easy. Ormai c'è, diciamo, questa tradizione questa consuetudine, che molti, molti locali per sopravvivere alla grande cucina sono costretti a fare un secondo locale, diciamo, a minor prezzo, quindi sui 35. Sì, ne hai citati molti, sì, più volte, di locali di profilo meno alto, ma di comunque grande qualità, dello stesso cuoco. Sì, lo stesso cuoco, sì. E ormai è un'esigenza, direi, di molti bravi chef che in certe aree d'Italia, in certi posti, ma compreso anche le grandi città, Milano e Roma, devono fare un secondo locale che sostenga il primo. il primo è accademia molte volte, il secondo invece è come si fa cassetta. Ma questo ci hanno insegnato gli stranieri, perché tutti quelli che vediamo spesso in televisione, dagli inglesi, dai francesi e dagli americani, sono molto bravi a creare una seconda linea che è quella che regge la prima. E anzi, in molti casi all'estero diciamo che il vero business lo fanno con la seconda linea, creando 8-10 secondi locali. In Italia purtroppo ancora questo non avviene, perché lo chef italiano si ritiene molto creativo, molto artista e non impresario, non imprenditore, e quindi non eccede su questo. Ma ti voglio dare un'ultima suggestione. Sì. Anzi, due ultime suggestioni. Una a Varigotti. Qui siamo quasi in zona, sì. Dove c'è una bellissima spiaggia. C'è un locale che si chiama La Muraglia, Conchiglia d'Oro, dove la cucina è tutta basata sulla padella e sulla brace. Mm. Quindi credo la cucina, una cucina molto, molto sana, ma anche molto, molto gustosa. È un proprietario un po' particolare, sorride poco. Però devo dire che si mangia bene, quindi al di là di questo io sono stato più volte, e anche se ho contestato che sulla carta dei vini ci sono solamente vini bianchi e non un vino rosso, io amo mangiare accidenti. Il pesce. Anch'io amo particolarmente il vino rosso, anche col pesce. Ecco, lì purtroppo c'è tutto vino bianco, però nonostante questo vale la pena di andarci, perché è veramente un locale che ne è, diciamo, di grandissima qualità sul pesce. È difficile trovare posto a sedere, i posti non sono tanti, ma è molto battuto. E poi in un altro posto, in una località che si chiama Ne, N come Novara e come Empoli e basta, in provincia di Genova, si chiama La Brinca. Sì. Qui si mangia la vera tradizione, diciamo, non di pesce, ma del territorio, di quel territorio, dove il minestrone con il pesto è da urlo. Ecco, perché io stavo aspettando un pesto su cui scommettere. Allora andiamo lì per il pesto. Sì, per il pesto bisogna andare alla Brinca. È difficile trovare su una stradina che si sale, dice, uno pensa ho sbagliato, poi arriva. Poi sente profumo di basilico e dice sono arrivato. E questa Brinca, si sente odore, sente profumo, e diciamo che il pesto viene messo un po' dappertutto, ma ci sono altri, diciamo, piatti della tradizione, però il minestrone col pesto a me piace moltissimo, quindi ve lo consiglio. Grazie a Davide Paolini per essere stato con noi, al nostro gastronauta, alla prossima settimana. Intanto il nostro speciale Sanremo continua, noi ci ritroviamo tra poco. Grazie Davide, ci ritroviamo il prossimo sabato. Ciao, buon Sanremo. Il sabato del villaggio. E ci troviamo insieme per questa puntata speciale del sabato del villaggio. Siamo al Teatro Ariston di Sanremo, siamo a un passo dalla sala stampa e come sempre a quest'ora però dobbiamo parlare di tecnologie, e quindi lo facciamo collegandoci con Milano, dove c'è Enrico Pagliarini. Buongiorno Enrico. Ciao Marta, buongiorno a tutti. Noi siamo nella bellissima sede del Sole 24 Ore, ci stiamo godendo questo panorama, perché abbiamo un bellissimo panorama del cortile interno, quindi non è che ti invidiamo tantissimo, però... No, anche perché da questo lato, dove sono io, del Teatro Ariston, non si vede il mare, però si vedono i tetti di Sanremo, che sono veramente molto belli. Allora, Enrico, tu hai visto un minuto del Festival di Sanremo, visto che a te non è che proprio piaccia tanto? Allora, ho visto più di un minuto, perché rimanendo in redazione la sera ero quasi costretto, visto che verso qualsiasi luogo mi rivolgessi c'era un televisore acceso, quindi vedevo il Festival di Sanremo, perché tutti i nostri televisori erano sul Festival di Sanremo. Però non è che ho capito tantissimo, quindi poi ecco, magari questa sera darò un'occhiata per capire qualche cosa. Allora, io però ti posso dire che so chi vince il Festival di Sanremo. No, scusa, fammi capire, non l'hai guardato distrattamente, non l'hai capito, sì. Ma tu sai chi vince, va bene, chi vince? No, non lo diciamo adesso. Allora, intanto ti presento Claudio Grego, che lavora in Microsoft, benvenuto. Piacere Claudio. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, tu, ti facciamo dire due cose di quello che fai tutti i giorni. Il tuo mestiere è controllare che funzioni Bing e Cortana. Allora, Bing è il motore di ricerca di Microsoft. Esatto. E Cortana che cos'è? Cortana è l'assistente personale digitale di Microsoft e molte delle capacità di Cortana derivano da Bing. L'abbiamo rilasciato tempo fa per Windows Phone e adesso è disponibile su Windows 10, sia PC che mobile. Praticamente l'assistente virtuale è un agente software, si dice così. Possiamo chiamarlo così, che, al quale io posso fare delle domande, tipo chi vince il Festival di Sanremo, e lui potrebbe darmi una risposta. Però più semplicemente che tempo fa domani, trovami qualcosa sul web, come è andata a finire Juventus-Napoli, ad esempio. Esattamente. Gli puoi chiedere anche mi vuoi bene, puoi fargli anche queste domande? Anche questo si può fare. Un altro aspetto importante il problema però è la risposta. Dipende come la si tratta. Ecco. In generale però una cosa importante è che non solo si possono fare domande, ma spesso è Cortana a essere proattiva, ovvero lei mi dice: attenzione, hai una riunione dall'altra parte della città, devi uscire, se no arrivi in ritardo. A me lo direbbe sempre. Ecco, questo è quello che fa Cortana assieme a Bing. Quello di cui vogliamo parlare oggi, che non vale solo per il Festival di Sanremo, ma è una tecnologia interessante che viene già utilizzata in molti ambiti, ha a che fare con l'intelligenza artificiale, ha a che fare con quello che succede sul web e di tutti i dati che possiamo raccogliere sul web. Allora, voi che cosa state facendo per dimostrare come funziona questa tecnologia? Quello che abbiamo è, in realtà, cioè, il web è parecchio grande, quindi per conoscerlo tutto... Si chiama World Wide Web, non a caso. Per quello è così grosso. Quello che facciamo tramite la nostra tecnologia è pronosticare quello che succederà in determinati eventi. Lo facciamo analizzando i segnali del web, quindi il web non è solo l'informazione che trovo, ma il web comprende altre informazioni nascoste che, se aggregate, possono darci dei segnali. Che segnali, che tipo di dati raccogliete? Quello che succede è, aggregando informazioni in formato anonimo, possiamo magari sapere se un determinato artista è più seguito di altri, se ci sono particolari eventi come il Festival di Sanremo. In questo caso vediamo che magari una determinata canzone di un artista è molto più ascoltata di altre canzoni, perché lo vediamo perché ci sono delle ricerche e i risultati di ricerca portano poi a vedere questo video. E quindi è qui che mi sapete dire che chi ha avuto più successo secondo voi a Sanremo, e quindi, come diceva Enrico, calcolare chi vince? Questo è uno dei segnali che usiamo. In realtà ne usiamo molti di segnali, c'è una base di segnali statistici, quindi andiamo a stabilire delle correlazioni fra eventi passati e quello che la gente cercava su internet, ma anche segnali dai social, per esempio capire il sentimento relativo a un determinato artista. Esatto, questo visto che Sanremo in particolare, ma anche altri eventi, scatenano un sacco di commenti sui social network, sicuramente riuscire a interpretare quello che succede porta anche al risultato. Prima di svelare il vincitore... Mi tieni ancora sulle spine? Sì, volevo un'ultima osservazione, un ultimo commento. Uno potrebbe obiettare che Bing ha pochi dati a disposizione. In realtà quello che succede è che Bing è più usato di quello che si pensa. Parliamo comunque di milioni di utenti, e visto che tu hai un iPhone, per esempio Siri utilizza funzionalità di ricerca fornite da Bing. Stessa cosa per Amazon Echo o il Kindle Fire. Quindi è molto distribuito e le persone che entrano in contatto con Bing sono più di quanto si possa pensare. Ok, anche in Facebook avete qualcosa? Anche con Facebook c'è una partnership attiva. Sulle mappe? Sulle mappe. Ah, non su Sanremo? Su Sanremo non... Non su Sanremo nel modo specifico. Comunque a questo punto, Claudio, raccontaci chi vince il Festival di Sanremo. Visto che Elton John non era in concorso, direi che Jurato e Caccamo sono quelli che secondo Bing hanno il più alto potenziale di vincere questo Festival di Sanremo. Ah, Deborah Jurato e Giovanni Caccamo. Magari ce li ascoltiamo anche per qualche secondo, così li facciamo sentire Enrico Pagliarini. Che cosa poi ti aspetti di trovare di diverso da noi due? Se anche via, via da qui, via da qui, via da qui. Sei sempre lì che aspetti indossare le mie scuse come fossero medaglie da mostrare al mondo intero per trovare a tutti sei. adesso. Enrico, ti piacciono Deborah Jurato e Giovanni Caccamo? Com'è la canzone? Ti piace? No, diciamo che non sono molto esperto del genere italiano, quindi non posso. Oggi pomeriggio me la riascolto un po' altre due o tre volte, poi vedo. Sì, perché poi al primo ascolto non è che poi si può subito dire, però interessante. Marta, ma cosa dite voi? Cosa dite voi? Cioè, chi potrebbe vincere il festival? Cioè, ci sono andati vicino, è proprio assurdo. Sì, è una delle favorite, sì, è obiettivamente una delle favorite, okay. Anche da queste parti, eh. C'è un altro, questa è una coppia, c'è un altro cantante che potrebbe vincere? Allora, gli altri che così, i nomi che girano possono essere quelli di Annalisa, di Valerio Scanu, non so cosa ci dice, come si diceva un tempo, il cervellone elettronico, cioè, sono favoriti anche loro? In questo caso la saggezza del web ci dice che Annalisa ha buone possibilità di vincere, non tante quanto Jurato e Caccamo. E a sorpresa, negli ultimi giorni vediamo anche Elio e le Storie Tese come terzo possibile candidato, anche se leggermente staccato. Okay. Ah, io quelli ho detto podio fin dalla prima volta che li ho sentiti. Sì. Sì, ma certo che vi prendete una bella responsabilità, perché se, adesso non so a che ora si saprà il risultato. Tardi, però, diciamo, domani, molto tardi. Vabbè, diciamo domani quando uno si sveglia dirà quelli della Microsoft ci hanno preso, oppure quelli della Microsoft non ci hanno azzeccato. È vero, in realtà sul web esistono pronostici relativi a Sanremo 2016 fatte in varie modalità. Noi riteniamo che i pronostici di Bing, viste anche le esperienze passate, ti do un esempio, il Eurovision, abbiamo pronosticato correttamente i top 3. Lo scorso anno. Guarda che Marta è un'esperta di Eurovision. Sì, ho già l'albergo prenotato per Stoccolma, quindi già ti dico che ne riparleremo prima di Stoccolma, perché voglio sapere il podio anche di Stoccolma, ma quello sarà a maggio. Esatto, no, ma infatti è una cosa interessante, perché ovviamente uno potrebbe dire, bene, utilizzare tutta la capacità di calcolo che va messa in campo per una attività di questo genere per Sanremo potrebbe essere considerata anche uno spreco. In realtà è un esercizio per poi poter indovinare altre cose. Ad esempio, che cosa ecco, si infatti era proprio la domanda che volevo fare io, la stessa curiosità. Cioè, sì, questo è curioso, è divertente, ma mi suggerisce l'idea che si possa usare in altri ambiti. Vedi, è stata questa cosa, Enrico. Vedi, ci siamo sincronizzati e sintonizzati. Claudio, che cosa potete fare? Possiamo predire quante ore Enrico Pagliarini passerà davanti al televisore per vedere la prossima versione del Festival di Sanremo. No, troppo facile. In questo caso scherzo, però abbiamo fatto in passato pronostici anche su elezioni politiche, con ottimi risultati, talent show, e per esempio adesso c'è il Sei Nazioni, il torneo di rugby, e stiamo facendo i pronostici anche su quello. Però in questo caso la componente umana è imprevedibile, perché come fai a prevedere che cosa succede in un campo? Cioè è molto più probabile riuscire a capire, visto che la giuria popolare ha un peso nel voto finale di Sanremo, e comunque chi vota anche nella giuria non popolare sono umani, quindi in qualche modo fanno parte del sentiment della rete. Lì invece sono dei giocatori in campo, come fai a prevedere una cosa del genere? È vero, c'è sempre l'incognita. Prima della partita non sappiamo mai che cosa succederà. Tipo nei mondiali dello scorso anno in Brasile abbiamo fatto i pronostici e abbiamo indovinato 13 partite su 14 nel girone di qualificazione. Ovvio che se inizia la partita e per esempio per il Brasile Neymar si fa male, viene espulso un altro giocatore, cambiano un po' le carte in tavola. Per il Festival di Sanremo in realtà quello che succede è che la giuria popolare pesa solo per il 40%, quindi è molto più difficile fare un pronostico per il Festival di Sanremo piuttosto che per un'altra partita o un altro evento sportivo. Allora, a questo punto, Marta, direi non in bocca al lupo a Jurato e Caccamo, ma complimenti, visto che... Ah, certo, visto che hanno vinto Sanremo. Sai che c'era stata una canzone tanti anni fa degli Statuto, un gruppo scattorinese, la canzone con cui avevano partecipato a Sanremo si intitolava Abbiamo vinto il Festival di Sanremo. Poi non l'hanno vinto, però, però la canzone si intitolava così. Sono stati simpatici. Marta, io saluto Claudio Greco per essere stato con noi. Buon lavoro con la tua amica Cortana e con Bing. Noi ci sentiamo tra poco. Noi ci risentiamo tra poco, perché voglio sentire l'app della settimana tra poco. Digital Radio Flash. Ciao, sono Paola. Per ascoltare la radio in Digital Radio devo pagare un abbonamento? No, niente abbonamento né canone. Basta comprare una radio o un'autoradio nuova oppure adatti quella che hai già. E poi è gratis. Molti nuovi modelli di auto hanno il ricevitore incorporato di serie. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il sabato del villaggio. Bentornati al sabato del villaggio, ancora da Sanremo e sempre con Enrico Pagliarini, che a questo punto dovrebbe darci la sua app della settimana. Enrico, allora ce l'hai l'app della settimana? Sì, sì, questa settimana abbiamo un bouquet di app. Il tema è pagamenti peer-to-peer, cioè quando io ti do qualche soldo perché magari tu hai pagato la pizza oppure siamo andati a prendere il caffè e uno paga per gli altri. Allora, a volte certo uno offre il caffè agli altri, però può succedere che uno dice vabbè, dopo ti do un euro. Allora succede anche che uno poi si guarda in tasca e l'euro non ce l'ha, oppure quante volte succede che dopo una cena uno decide di pagare per tutti perché paga col banco, ma paga con la carta di credito, poi dice vabbè, dopo me li date. E succede sempre che uno dice ti devo dare 22 euro, però adesso ti do i 20, poi i due non arrivano mai. Allora, ci sono oramai molte applicazioni che sostituiscono i soldi di carta o di metallo, già questa è una buona notizia, ma devo dire che questo non è un bellissimo periodo per le banche. Ne parliamo sempre durante la settimana, insomma le notizie soprattutto legate alla borsa ci hanno detto che per le banche non è certo un buon periodo, però devo dire che quasi tutte le grandi banche hanno fatto delle innovazioni e quasi tutte le grandi banche italiane hanno un'applicazione o è a volte un servizio che è all'interno di un'applicazione che fa altre cose, che permette di fare i pagamenti peer-to-peer. Molto semplice, e soprattutto le app delle banche hanno il vantaggio di essere collegate al conto corrente, quindi all'IBAN, che è un numero molto semplice. Allora, funzionano un po' come i sistemi di messaggistica in tempo reale. Allora, immaginiamo che tu hai attivato un'app di questo genere con la banca. Con la banca di Topolinia. Bravissima. Io attivo anch'io la mia app con questo servizio. Devi avere anche tu la banca di Topolinia. Certamente. Dopodiché ci sono anche... Cioè, se hai la banca di Paperopoli non funziona? Dipende. Bisogna informarsi presso la banca perché queste applicazioni interagiscono e parlano anche di loro, perché sono basate sull'IBAN, che è il conto corrente. Di fatto fanno una sorta di bonifico. Però la cosa bella è che io ti cerco nella rubrica. Una volta che trovo il tuo nome, perché tu ti sei abilitata a questo servizio e sei nella mia rubrica, io ti aggancio e posso mandarti, così come mando un messaggio, invece di mandarti un messaggio posso mandarti 2 euro, 3 euro, 10 euro. Il pagamento è istantaneo, peer to peer, è tutto basato sul conto corrente, quindi uno non deve nemmeno creare un borsellino virtuale, non deve nemmeno aprire conti particolari. È tutto molto semplice e molto, molto facile. Quindi l'applicazione che è stata inventata dalla SIA, che è una società che lavora per le banche, si chiama Giphy, con la J e la Y, la J iniziale e la Y finale, però poi molte banche hanno ribrandizzato, hanno chiamato la loro app in un altro modo. Però uno si rivolge alla banca, è molto probabile che la banca abbia a disposizione questo servizio, che è molto comodo, devo dire, ed è gratuito. Mi piace molto, anche perché così non ci saranno più scuse, così non potrai più dire ho dimenticato il portafoglio a casa. Eh sì, esatto. Grazie Enrico per avermi fatto compagnia anche qui da Sanremo. Ci ritroviamo sabato prossimo in studio. Ciao Marta, sicuramente, ciao. Adesso invece è il momento del cinema, andiamo a sentire cosa c'è di nuovo questo fine settimana in sala. Quindi voi mi state dicendo che nessuno di noi ha segreti? Magari, ci conosciamo tutti a memoria. Ok, allora facciamo un gioco. Mettiamo qua tutti i nostri cellulari. Per la durata della cena, messaggi, WhatsApp, telefonate, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no? Ora ti spiego. Ma che vuoi spiegare? Questa ha scritto c'ho voglia di scopare. Tante volte può essere il T9, Parla, sono i tuoi migliori amici, magari anche loro vogliono sapere, no? Dammi quel telefono! Dammi quel cazzo di telefono! Ma non mi dici chi sei? Dici da quanto dura! Oh, no, no. Oh, no, no. E ovviamente in questo sabato del villaggio speciale da Sanremo non può comunque mancare l'appuntamento con il cinema, perché ci sono tanti appassionati che vogliono sapere cosa andare a vedere questo fine settimana. Abbiamo sentito un pezzettino, un frammento di Perfetti Sconosciuti, e tra l'altro una delle protagoniste è stata qui a Sanremo, l'abbiamo incontrata e sentiremo insieme cosa abbiamo combinato per il sabato del villaggio, ma ci chiediamo se vale la pena andare a vedere questo film e lo chiediamo subito a Franco D'Assisti. Ciao Franco. Ciao Marta, un saluto a tutti. Sì, vale la pena, perché ci sono alcuni buoni motivi. Paolo Genovese, il regista che sentiremo tra l'altro in un'intervista esclusiva alla Rosa Purpurea alle 18 qui su Radio 24, è il regista di Immaturi, è il regista di Una famiglia perfetta, insomma è un regista che ha dimostrato di essere perfettamente a suo agio nel guidare un canovaccio con delle briglie molto rigide, cioè dove la scena è quasi fra virgolette teatrale, e così è anche in questo Perfetti Sconosciuti. La premessa è appunto che ognuno di noi ha una vita pubblica, una privata e una segreta. Se quella segreta fino a poco tempo fa poteva essere davvero segreta, cioè rimaneva nella nostra memoria e solo il nostro ricordo poteva svelarla, adesso ci sono i telefonini, le sim, le chat, ci sono una serie di nemici della segretezza della nostra vita che possono essere invece di grande insidia. E cosa succede se una sera in una cena fra amici si decide di mettere a condivisione, a disposizione di tutti, il proprio telefonino e vedere che cosa succede nei prossimi minuti? Ecco, questa è un po' la scena che anima questo film popolato di star all'italiana, da Kasia Smutniak, appunto hai detto, Anna Foglietta, Marco Giallini, Valerio Mastandrea, Beppe Battistone, Edoardo Leo, Alvaro Orvacher, un cast tutte stelle che riesce a portare a casa davvero questo film nel quale alla fine nessuno sarà più uguale a se stesso, o almeno al se stesso dell'inizio del film. Franco, a te viene meglio la Magnum o la Blue Steel? No, perché torna Zoolander, qual è la tua specializzazione? Vabbè, assolutamente, ma io direi che lo sguardo spiritato di Ben Stiller ci accompagnerà nei nostri sogni più reconditi. Tra l'altro fa parte di una pubblicità anche che sta girando in televisione proprio durante il Festival di Sanremo. Torna Zoolander, torna 10 anni dopo, torna con gli stessi compagni di merenda e soprattutto con Owen Wilson. Come sapete, le cose non sono andate benissimo al modello più famoso ma anche un po' più stupidotto di quei tempi, che adesso cerca di rimettere su il sodalizio con Owen Wilson per affrontare il cattivone che ha sempre le fattezze di Will Ferrell, ma soprattutto per salvare molte pop star che sono falcidiate dalla cattiveria del mondo della moda. Avete capito che siamo nel mondo del surreale o anche un po' del demenziale, che è il mondo che ha popolato il primo Zoolander. Forse in questo caso la trama è un po' meno strutturata, è un po' più esile, un po' più pretestuosa se volete, ma ciononostante le scintille di follia cinematografica e di metadialogo fra lo schermo e gli spettatori da parte di Ben Stiller, con quel suo sguardo accattivante, diciamo così, sono tante, si ride molto, e direi che poi alla fine è il compito di un film come questo. Guarda, è una delle ragioni per cui torno volentieri da Sanremo per andare a vedere il nuovo Zoolander. Trambo, Franco, Trambo, lo consigli? Andiamo a vederlo? Sì, dal faceto al serio potremmo dire in questo caso, perché il cinema americano torna sui passi di un filone che ha abbracciato molto spesso in passato. Pensate a Guilty by Suspicion di Irving Winkler con Robert De Niro e Annette Bening, tanto per andare alla fine degli anni 90, insomma le storie dedicate alla caccia alle streghe, alla paura del comunista, al maccartismo, sono un filone in cui si inserisce perfettamente anche questo, l'ultima parola, la vera storia di Dalton Trumbo. Dalton Trumbo era uno dei più grandi sceneggiatori americani di Hollywood, ma anche tra i più pagati della fine degli anni 40, schierato con i sindacati, attivo politicamente per i diritti civili, chiaramente era bollato di infamia comunista, e in quell'America questa cosa non poteva andare. Il film racconta questo, racconta questa figura, lo fa con un Bryan Cranston protagonista del film di Jay Roach, che arriva dalle serie televisive ed è un volto veramente di grande efficacia anche sul grande schermo. Insomma, un film impegnato ma che ci apre, come hanno fatto spesso i suoi capostipiti, i suoi predecessori, ci apre una finestra su un'America che conosciamo poco e che vale sempre la pena di ricordare. Grazie Franco, l'appuntamento con te più tardi dopo il giornale radio delle 18 con la Rosa Purpurea, e ancora insieme sabato prossimo al sabato del villaggio. Ci sentiamo, buon Sanremo, la Rosa Purpurea vi aspetta con tutto il cinema che c'è come sempre qui su Radio 24. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Sono Maria Latella e la domenica mattina finora potevamo incontrarci in TV. D'ora in poi invece ci troveremo anche su Radio 24, ogni domenica mattina alle 10, per parlare di donne perfette, imperfette, aspiranti alla perfezione e di come ci vedono gli uomini. Vi aspetto ogni domenica mattina alle 10 su Radio 24. Ascoltaci anche in Digital Radio. Radio 24 presenta Il sabato del villaggio di Marta Cagnola. Buongiorno, rieccoci insieme con questa puntata speciale del sabato pomeriggio di Radio 24, Il sabato del villaggio, dove il villaggio è il nostro villaggio globale, sempre la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali. Un sabato molto particolare questo, perché siamo ancora in onda dal Festival di Sanremo, anche per una volta nella terza ora del sabato, ma dalla prossima settimana ovviamente torna anche l'appuntamento con RadioTube. Cosa succederà nella seconda ora del sabato del villaggio? A tema musicale gli appuntamenti con i libri e i consumi insieme a Alessandra Tedesco e Maria Luisa Pezzali. Gli ospiti del festival con noi Anna Foglietta e Nino Frassica. Ma subito l'ospite più attesa della serata finale. Buonasera, un grande benvenuto, un grande caloroso saluto a Cristina D'Avena. 7 milioni di dischi venduti nella sua carriera, 35 anni di attività, come tutti sapete la regina delle sigle televisive, sold out in tutti i suoi concerti e appunto durante la sua carriera ha ricevuto ben 5 dischi di platino e un disco d'oro. Abbiamo appunto con noi Cristina D'Avena, che sarà ospite quindi la serata conclusiva del 66esimo Festival della Canzone Italiana. Cristina. Allora, io sono non emozionata di più, sono felicissima e nello stesso tempo particolarmente emozionata, perché stare su questo palco è veramente un traguardo molto importante. Chi siano non lo so, gli strani ometti blu, sono alti su per giù, due mele poco più. Le buffi siamo così, e siamo buffi blu, puntiamo su per giù, due mele poco più. Vivono via da qui, nell'incantata città, riparata dalla selva, dal deserto, dai monti e dal mare. I funghi di laggiù, nel bosco le vedrai, vicino al fiume blu. Puffiamo noi laggiù, i funghi puffi assai, puffarli tu potrai, vicino al fiume blu. Hanno un ponte che poi attraversano per ricercar nella foresta quel che più gli serve, più gli va. Dalla città amici hanno già e senza esitare li vanno a trovare. Cristina, che momento è per te questo? Cos'è per te questo momento, questo palco, questa accoglienza? Mamma mia, guarda, sono emozionatissima, ho il cuore che mi batte a mille. Io ringrazio tutti perché sono stata veramente voluta, mi hanno voluta fortemente, e quindi vi dedico al pubblico questa grande vittoria, perché è un traguardo ed è una vittoria importante e che voglio condividere con tutti. Quindi che ti posso dire? Che veramente non ci sto dentro. Cioè, c'era stata anche una campagna online, Cristina, a Sanremo, ti hanno voluto tutti. È per questo che ti dico, io sono felicissima, sono orgogliosissima, perché ho un pubblico che mi ama tanto, tanto, tanto, e io cerco di contraccambiare come posso questo grande amore dando me stessa e tutta la mia voglia di vivere, che è fondamentale, tutta la mia gioia e tutto l'amore che ho, perché è così. Cristina, cosa farai sul palco? Perché noi ti sogniamo di vederti in gara, però devi fare il tuo questa volta. Allora, io sì, canterò le sigle dei cartoni animati, quelle che in realtà sono state un po', diciamo, forse più richieste, e diciamo le sigle, non dico più importanti, ma quelle che forse i ragazzi giovani hanno più nel cuore, no? Perché poi ci sono le sigle che ti entrano nel cuore e rimangono lì per tutta la vita. Quindi canterò sicuramente alcune delle canzoni che hanno accompagnato la mia, perché anch'io ero giovanissima, e l'infanzia dei giovani. E poi sai, è un momento di festa, quindi io penso che sia davvero e spero sia un grande momento di condivisione, di amore, di allegria, l'allegria. Cover di Goldrick l'altro giorno, non era mai successo sigle sul palco dell'Ariston. E questa è la cosa nuova ed è questa la cosa bella, cioè il fatto di riuscire a cantare una sigla di un cartone animato all'Ariston. Cioè, quindi ragazzi, è una vittoria pazzesca. Grazie e stasera la dobbiamo condividere tutti insieme, vi amo. Ultima cosa al volo, l'anno prossimo ci provi con la gara? Vediamo, magari vediamo se mi arriva un pezzo importante, sì. Grazie Cristina. Il trattamento atletico, il trattamento estetico, su di moda, su di moda. E torniamo con quest'amen di Francesco Gabbani, perché lui è finora l'unico vincitore del Festival di Sanremo, perché è quello delle nuove proposte ed è stato proclamato ieri sera. Lo abbiamo incontrato appena dopo la premiazione, quindi queste sono le sue reazioni proprio a caldo, caldissimo. È un momento per me incredibile, perché questo risultato arriva dopo anni di sacrifici, un percorso veramente fatto di tanti pezzi d'anima messi nella mia passione per la musica, quindi in un attimo sono state ripagate tutti questi anni veramente di impegno, perché se devo essere sincero io mi sono sempre posto con molta spontaneità, pensando che era già una bella festa, una grande opportunità poter salire su quel palco e cantare spontaneamente la mia musica, il mio brano, del quale sono molto orgoglioso. Il mio primo pensiero è andato alla persona che ha scritto il brano insieme a me, che è Fabio Iracqua, con il quale ho un rapporto fantastico, e poi a tutte le persone che mi hanno sempre sostenuto. Cosa ci deve essere nella vita? Non lo so, è una bella domanda, perché probabilmente questa cosa inevitabilmente mi sconvolgerà un po' i piani. La cosa che sicuramente ho intenzione di fare è di portare in giro la mia musica il più possibile, soprattutto nella dimensione live. Io nasco sul palco e voglio continuare a stare sul palco, non vedo l'ora di suonare. Alla porta i barbari, nascondi provviste, spiccioli sotto la coda, sotto la coda, sotto la coda. I trafficanti d'organi e le razzie dei vandali sono di moda, sono di moda, sono di moda. Un visionario mistico all'università, mi disse l'utopia si salverà. A Stemming come ti dico per l'infelicità, la messa ormai è finita figli, andate in pace. Cala il vento, nessun senso di nuovo, tutto tace. E allora avanti popolo che spera in un miracolo, elaboriamo il lutto con un amen. Amen. Dal ricco Luca scettico al povero di spirito, dimentichiamo tutto con un amen. Amen. Amen. Amen. Il sabato del villaggio. La borsa di una donna pesa come se ci fosse la sua vita dentro, tra un libro che non vuole mai finire ed altri trucchi per fermare il tempo. nella mia borsa ci sono le cuffiette per sentire la musica, c'è il telefono, perché poi il telefono, sai, chiamo i miei amici, oppure dentro c'ho internet e le cose, mi sento la musica nel telefono. Poi c'è un rossetto, perché ultimamente sto diventando donna, quindi mi metto, io non mi trucco tanto nella vita, il massimo che mi metto è un po' di rimmel e un po' di rossetto adesso, perché mi fa sentire come, sai, in Inghilterra ho imparato, siccome sono sempre stata un po' trasandata quando sto, cioè se io potessi girare in pigiama, io l'avrei fatta in pigiama queste interviste, però è bello perché l'amore di sé, che gli inglesi poi hanno moltissimo, e c'è tanto anche a Milano, perché io vedo girare le persone in giro molto, molto vestite bene, carine, è una bella cosa, e l'ho voluta aggiungere alla mia borsa, è un'aggiunta nuova questa cosa del rossetto. E poi niente, c'è un blocchetto per scrivere le frasi, le cose che mi colpiscono, sì. Grazie, abbiamo la stessa borsa, fantastico. E dai! E se ci trovasse quei giorni di carezze fra i capelli, lei per due minuti soli pagherebbe mille anni, anni spesi per ritrovare le cose che qualcuno è riuscito a smarrire, la voglia di sorridere, di perdonare, la debolezza di essere ancora come la vogliono gli altri. La borsa di una donna non si intona quasi mai con quel che sta vivendo. E sempre qui da Sanremo per parlare, lo dicevamo, di consumi. Beh, c'è anche una canzone, l'abbiamo sentita, che racconta un po' la vita attraverso quello che possediamo. Quello che possiede una donna in una borsa è un po' quello che la rappresenta. Chissà quale oggetto nella borsa rappresenta Maria Luisa Pezzali. Buongiorno da Sanremo, Maria Luisa. Buon pomeriggio, Marta. Un saluto a tutti. Mi hai lasciato sola oggi qui in studio. E sono venuta a prendere un po' di aria ligure. Hai fatto benissimo, hai fatto benissimo. Beh, l'oggetto che mi rappresenta nella mia borsa, il taccuino, il Moleskine, insomma, quello su cui annoto un po' di tutto, ecco. Lavoro e pensieri. Esattamente. Beh, bellissimo questo riferimento alla canzone di Noemi, è vero, tutto quello che possediamo, tutto quello che compriamo, quindi può raccontare moltissimo di noi. E in tempi di big data, Marta, cioè di dati sulle nostre attività online, che siano attività social, quindi quello che noi raccontiamo sulle nostre preferenze, oppure attività di acquisto, quindi quello che noi compriamo online, possono veramente raccontare moltissimo. Molto divertente, Marta, la mappa di Amazon, che in base agli acquisti di dischi classifica le città in base ai generi musicali. Quindi una geografia musicale dell'Italia. Esattamente, è veramente divertente. Scopriamo ad esempio che Reggio Calabria è la regina del rock. Io mai me lo sarei aspettato, ecco. Beh, quindi calabresi fantastici, numeri uno, calabresi rock, straordinari. Pavia è la regina dell'heavy metal, e anche questo, insomma, mi stupisce. Ho un'amica pavese, ma non è proprio così heavy, insomma, nelle sue preferenze di vita, però avrà un animo metal nascosto che tu non, esatto, sai, che devo scoprire. E poi, scorrendo, insomma, Siracusa è la città del jazz, ma anche di sky reggae. E poi Pordenone si aggiudica il primato per la musica classica. La musica pop invece è molto apprezzata nel sud Italia, ad esempio Andria al primo posto per la musica pop, e poi anche per musica dance ed elettronica. E devo dire che allora Andria potrebbe essere un bel posto per me in cui vivere, perché mi piace pop, dance, elettronica, mi piace molto. Sono indecisa tra la Calabria e Andria, allora devo fare le valigie dopo Sanremo. Ad esempio mi ha colpito per questa categoria dance Rimini, perché me la sarei aspettata, insomma, prima, invece è solo sesta, e primeggia invece Rimini per R&B e soul. Ah, non per il liscio, per R&B e soul, fantastico. Sì, quindi un'anima, insomma, molto più morbida di quanto si crede. Poi rap e hip hop, Siracusa, Cremona e Pavia, questo è il podio. Piacenza infine la città più appassionata di musica folk e country. Bello, mi piace molto. Sì, il country ci sta con Piacenza, ci sta secondo me perfettamente. Bella questa ricerca. Sì, chissà quanti, insomma, dei nostri ascoltatori si saranno riconosciuti in questa mappa di preferenze di generi musicali. E poi, perché tu mi hai chiesto ovviamente oggi, dimmi tutto quello che in termini di consumi si può sapere avvicinandoci alla musica, perché ovviamente la puntata di oggi non può che essere dedicata a quello. Dal 2005 ad oggi, ad esempio, Marta, si calcola che siano quasi raddoppiate le iscrizioni ai corsi di canto. Un effetto talent show, tutti guardano Amici, X Factor, The Voice e poi vogliono cantare? Esatto, siamo tutti cantanti, mai come oggi possiamo dirlo. E un sito, prontopro.it, è un sito che raccoglie domande e offerte di artigiani e liberi professionisti, quindi dall'idraulico al maestro di canto, ha appunto, con una bella indagine, ha cercato un po' di capire anche in questo caso la mappa delle lezioni di canto in Italia. Innanzitutto, appunto, in termini di numero ha scoperto che sono raddoppiate in questi 10 anni, e poi ad esempio la città dove c'è una maggiore richiesta di lezioni di canto è Milano, in cui si è registrato un incremento di quasi il 90%. Incredibile, 90%. Sì. I milanesi hanno scoperto una vocazione canterina, bello. Esatto. Interessante poi anche l'analisi sui costi. In media una lezione di canto costa 30 euro all'ora, ma i prezzi variano molto a seconda della città. La più cara è Milano, vabbè, succede. Quindi la legge domanda offerta. In media per una lezione di canto a Milano servono appunto 37 euro all'ora, invece le più economiche, Bari, Campobasso, Catanzaro e Potenza, si scende sui 25 euro all'ora. Piuttosto care anche Venezia, Genova, Trieste, Roma e Bologna, con 35 euro all'ora, sotto la media, quindi sotto i 30 euro, anche Ancona 26 euro e Perugia 28. Quindi andiamo a studiare al centro-sud, tranne Roma, ci conviene, costa un po' meno. Bello, poi fa bene alla salute, bella questa notizia del canto. Hai detto giusto, perché tra l'altro nell'indagine viene segnalato che gli insegnanti intervistati sottolineano proprio i benefici per la salute delle lezioni di canto: miglioramenti nella respirazione e nella postura, quindi non solo per chi vuole fare il cantante, insomma, questo sogno. E poi le lezioni di canto sono le più richieste, vengono seguite solo da quelle di chitarra. Ah beh, così poi uno fa il falò sulla spiaggia, canta, si accompagna, mi sembra perfetto. È il momento dei nostri consigli anticrisi, Maria Luisa? Esatto, dovremmo avere in collegamento, quindi questa triangolazione magica, la nostra Cristina Lazzati. Ciao Cristina! Buon pomeriggio a tutti, eccoci qui, pronti per San Valentino? Io mica tanto, però in linea di massima, se vogliamo fare degli auguri di San Valentino particolarissimi, possiamo accoppiarci con il cantante Fedez. Fedez, per chi non lo conoscesse, è un rapper che piace moltissimo ai giovanissimi e che per San Valentino, in collaborazione con i Baci Perugina, ha inventato questa cosa che si inserisce nel trend dei contenuti generati dagli utenti, che vuol dire che ormai le marche si muovono anche facendosi aiutare dai loro stessi clienti, e quindi in questo caso, volendo, si può andare su un sito che è bacioconfedez.it, dove si possono caricare fotografie degli amici, fotografie ovviamente dell'amato e dell'amata, e viene fuori un piccolo video che poi si potrà postare sui propri social, da Facebook a Twitter, e dove si può condividere quindi con gli amici e ovviamente con la persona oggetto di questo video sulle note di Magnifico. Infatti l'hashtag è Un Bacio Magnifico. Questi auguri di San Valentino. Tra l'altro quest'anno San Valentino cade per i milanesi in coincidenza con l'ultimo giorno del Carnevale, ma per tutti gli altri diciamo che da sabato sera in poi si può festeggiare, e guardando un po' le offerte di San Valentino diciamo che la tendenza oggi è quella di andarsene via un paio di giorni, per chi ha figli lontano dai figli e per chi non li ha lontano dalla famiglia. Quindi tanti viaggi, tante spa, fatevi massaggiare, fatevi coccolare, e poi diciamo che questa cosa del bacio perugina è anche molto molto conveniente, nel senso che non costa assolutamente nulla. Quindi Sanremo insieme a San Valentino, tra l'altro un po' di Fedez c'è anche a Sanremo perché c'è la Michelin in gara che ha fatto appunto Magnifico. Mi sembra che vada tutto d'accordo, Maria Luisa. Beh, quando ha detto accoppiarci mi sono un po' spaventata, però poi ho capito. In effetti. Beh, oddio, sarebbe anche il giorno giusto, però io sono a Sanremo, quindi oggi un santo diverso, anche se Sanremo non è un santo, lo sappiamo, ma ci piace scherzare sulla coppiata Sanremo-San Valentino. Beh, poi con un cupido come Fedez effettivamente prende tutto un altro twist il festeggiamento. Tra l'altro lui ha un sacco di tatuaggi e i Baci Perugina avranno nei famosi cartigli, a parte le frasi delle sue canzoni per l'edizione speciale, ci saranno anche i suoi tatuaggi. Quindi insomma, per gli amanti di Fedez, o se avete fidanzati e fidanzate che amano Fedez, beh, questo è un fantastico regalo. È il momento di chiudere, Cristina, Maria Luisa, vi mando un bacio da Sanremo. Beata a te, ti invidiamo, io ti invidio moltissimo. Anch'io. Salutami Sanremo. Grazie ragazze, un saluto da Sanremo qui dal Teatro Ariston e ci ritroviamo sabato prossimo, vi assicuro, a Milano. A presto. Ciao Marta. Ciao. Recupera, ha vinto, straordinaria impresa di Mennea. Ferma Scirea, Bergomi, Gentile, ha finito, campioni del mondo, l'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1. Certe imprese sono possibili solo a Olimpia, la città dello sport. Qui ad Olimpia si trova il santuario di Zeus, perché grazie all'esistenza di questo santuario sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. Sono Dario Ricci, vi aspetto a Olimpia, la città dello sport, con i suoi miti, le sue verità, i suoi segreti. Ogni domenica alle 20:30, qui su Radio 24. Il sabato del villaggio. Siamo il prodotto di gioie e dolore, di segni che lascia la vita, figli di sogni segreti perduti nel vento, innamorati di giorni d'amore magari nemmeno vissuti, nella memoria trasfigurati al sole come noi. Corre forte il tempo e ogni sentimento è nato da quello che è stato, è già diventato una spina, tutto come prima, ma su nuove sponde si nuota passando le onde e niente sappiamo di noi, ma non dimentico, non ti dimentico. Il primo amore non si scorda mai. Siamo il prodotto. E qui al nostro sabato del villaggio è, anche se siamo da Sanremo in questo speciale, il momento dei libri, come sempre. E beh, abbiamo sentito questo Enrico Ruggeri che ci ha tenuto tanto compagnia in questi giorni, ma non solo perché comunque continuiamo a fare il tifo per lui, comunque lo seguiremo con grande passione anche nella finale di stasera a Sanremo. Ne parliamo perché è un romanziere. Io non so, devo confessare, non ho letto il suo romanzo, quindi mi affido alla nostra super esperta Alessandra Tedesco. Ciao Alessandra. Ciao Marta. Devo dire che questa passione dei cantanti per la scrittura per i libri è parecchio diffusa, soprattutto negli ultimi anni. Un po' come tutti gli italiani hanno, come dire, il classico romanzo nel cassetto e prima o poi vogliono vederlo pubblicato. Ci sono scrittori che naturalmente lo fanno in maniera più continuativa e altri invece che lo fanno così one shot, giusto per togliersi lo sfizio di dire ho pubblicato un romanzo. Stiamo parlando naturalmente di cantanti che scrivono romanzi, cioè pura fiction, non biografie, la storia della propria vita e cose del genere. E fra questi c'è Ruggeri. Ruggeri fa parte, Enrico Ruggeri, di quella schiera di cantanti giallisti, cioè che hanno deciso di scrivere proprio una pura fiction, in questo caso con una trama thriller anche piuttosto forte. Il romanzo di Ruggeri era uscito un paio di anni fa, si intitola La brutta estate, pubblicato da Mondadori, ed è ambientato a Milano. C'è un protagonista, Marco Taviani, un giornalista sportivo, matrimonio in crisi, ha un'anziana zia che vive da sola. Insomma, a un certo punto questa donna viene trovata morta, sgozzata nella sua casa. Sembra una rapina, ma ovviamente non lo è. Da qua ne nasce tutta un'indagine per scoprire, insomma, chi è il responsabile e che cosa si cela dietro la morte di quest'anziana signora. Mi piace perché subito l'esperta di libri e di gialli mi dice: sembra una rapina, ma ovviamente non lo è. Tra l'altro, Alessandra, ti do una notizia, perché proprio qui a Sanremo Enrico ha raccontato che sta per tornare a scrivere, sta scrivendo. Ah, però. Una sorta di spin-off, sì, di un derivato del primo romanzo, perché la casa editrice ha apprezzato particolarmente un personaggio che non era nemmeno il protagonista, è un commissario, che diventerà protagonista del prossimo libro. Vabbè, allora basta, cioè ormai Ruggeri lo stiamo perdendo, cantante, conduttore radiofonico, scrittore, non lo so cos'altro farà nella vita, glielo chiederai magari appena lo incontri. Sì, infatti questi giorni, insomma, poi si è fatto valere, sono molto contenta. Alessandra, hai detto che però i gialli piacciono ai cantanti scrittori. Sì, devo dire che i cantanti giallisti sono diversi, per esempio anche Francesco Facchinetti ha pubblicato una pura fiction, si chiama La Tana del Bianconiglio ed è un thriller ambientato sempre a Milano, a Parco Sempione. È un thriller strano perché lui aveva dichiarato, dice: avevo bisogno di raccontare una sofferenza interiore, diciamo un lato buio, una sorta di negatività che si nasconde in ognuno di noi, e il libro era nato quasi come un saggio sul male, poi lentamente invece si è trasformato in un romanzo. Quindi anche Facchinetti, che sembra così solare, ha voluto, come dire, attraverso un libro, un thriller, esprimere il suo, magari, lato oscuro, non solo quello che presuppone essere degli altri. Ah, quindi non il lato oscuro di quando cantava malissimo, povero. No. Ma lo dice lui stesso, ma guarda che lo confessa. Guarda, io sui cantanti, lo sai, non mi esprimo, non dico nulla. Sulla qualità artistica del canto. Posso parlare di libri, di quello che più o meno conosco, insomma, diciamo così. Credo rimarrà una parentesi quella di Facchinetti, ma questa è una mia personalissima opinione. Invece c'è per esempio Teresa De Sio, che proprio quest'anno ha pubblicato un romanzo che si chiama L'Attentissima, pubblicato da Einaudi. E quello l'ho letto. Sì. Quello, gli ascoltatori non lo sanno, ma io chiedo spesso i libri in prestito ad Alessandra Tedesco, quello ve lo sono fatto prestare, sì. E allora parlane tu, Marta, scusa, ti è piaciuto o non ti è piaciuto? Perché io ho qualche riserva, sinceramente. Guarda, sai che in realtà, appunto, so che tu hai qualche riserva, a me ha molto incuriosito all'inizio, quando poi si svela il meccanismo, perché c'è un meccanismo che lega due storie diverse, ecco, poi quando il meccanismo è svelato e la sorpresa è rivelata, mi ha divertito un po' meno, in senso lato un po' meno, però tutto sommato è stata una lettura molto godibile, io lo consiglierei. Ecco, la protagonista è una donna, una violoncellista affermata, si chiama Carmen, è una donna che affascina molto gli uomini, c'è molto sesso, c'è molto, come dire, fascino, erotismo in questo romanzo, ma c'è anche un aspetto thriller, perché vengono uccise appunto diverse persone che in qualche modo hanno a che vedere con la vita di questa persona. Io avevo visto il reading di Teresa De Sio al Courmayeur Noir in Festival e devo dire lì ho avuto qualche perplessità, insomma, però vabbè, rimaniamo su due pareri ogni tanto io e Marta Cagnola non siamo d'accordo sui libri. Viva Dio, sì, a volte possiamo essere anche non d'accordo. Tutti gialli? C'è anche qualcos'altro? No, c'è anche qualcos'altro. Allora, questi sono, diciamo, i cantanti giallisti. Sicuramente uno dei cantanti che ha fatto più parlare di sé negli ultimi mesi, proprio nell'ultimo anno come scrittore, e Vinicio Capossela, perché aveva scritto altre cose, però l'anno scorso aveva scritto il vero e proprio primo romanzo, Il paese dei coppoloni, pubblicato da Feltrinelli. Questo romanzo addirittura è arrivato fra i 12 finalisti del premio Strega, non è arrivato in cinquina, però molti ci scommettevano, c'erano state anche un po' di polemiche perché gli scrittori dicono: ma come, l'ultimo arrivato è il cantante che si mette a fare l'opera prima e arriva subito finalista allo Strega, perché sai, poi gli scrittori a volte, insomma, sono gelosi del loro mondo. Sì, sono un po' sospettosi. Sono un po' sospettosi. Io non so se tu lo puoi dire, lo dico io, pensano che i cantanti abbiano strada facile a pubblicare i loro libri e che quindi possano scrivere un po' quello che vogliono, dai, diciamolo. No, ma più che altro sono i personaggi famosi, ecco, ecco, basta mettere così, un personaggio noto famosi, in copertina, ecco. E vende sicuramente più magari di uno scrittore bravo e meno noto, questo non ci sono dubbi. Sul libro di Capossola ti posso dire che è un libro fatto molto di memoria, cioè si parla del concetto di infanzia, non solo l'infanzia, la sua infanzia, ma come dire l'infanzia di tutti, il voler tornare indietro in un mondo, diciamo, quasi protetto, materno, quasi ovattato, quindi è un romanzo molto nostalgico, ecco, da questo punto di vista posso dire che è un romanzo molto molto nostalgico. Ancora consigli o sconsigli? O sconsigli. Tra musica e libri, visto che siamo a Sanremo. Guarda, ne facciamo due tatà e poi secondo me l'ultimo che vale la pena solo parlarne a 5 ore sia di musica che di libri. Allora, ti posso dire che per esempio anche Giuliano Sangiorgi di Negramaro ha pubblicato un romanzo alcuni anni fa, si intitolava Lo spacciatore di carne. Non era male il romanzo, però la scrittura era molto ancora legata alla ritmica delle canzoni. Era una scrittura ancora molto musicale, però il libro non era affatto male. Ricordo, era ambientato a Bologna, c'era tutta una storia di un immigrato e di un ragazzo che studiava a Bologna, appunto faceva lo spacciatore di carne perché portava la carne che il padre macellaio gli dava, la spacciava fra i suoi compagni di università e così via. E poi Ivano Fossati, che alcuni anni fa ha pubblicato 335, che non è un'autobiografia, però è la storia di un musicista che parte dal Piemonte, va a suonare, mi sembra, sulle navi da crociera all'inizio, insomma, poi inizia ad avere un certo successo. 335 infatti è il nome della chitarra, dello strumento che suona. In questo caso il romanzo era appassionante, era bello, era poetico, forse avrei tagliato una 50ina di pagine, diciamo, avrei fatto un lavoro di editing più strong. Pensa che io ce l'ho lì nella pigna dei libri da leggere da un sacco di tempo e non l'ho ancora iniziato. Lo leggerò. Lo leggerò. Consigli o barra sconsigli? No, Marta, questo lo consiglio. Come si può non consigliarlo? Allora, perché è stato il primo, l'ho lasciato per ultimo, ma è stato il primo cantante in realtà a dedicarsi ai romanzi. Sì. Ai romanzi, ai memoir, alle storie, ai racconti, anche alla poesia. Francesco Guccini. Francesco Guccini, sono più di 25 anni che scrive libri, quindi possiamo dire che è veramente un artista tutto tondo, dalla musica al cinema ai libri. Vi faccio alcuni titoli: Vacca di un cane, Città Nova Blues, e ultimamente il Dizionario delle cose perdute, c'è stato il primo volume nel 2012 e il secondo nel 2014, poi Il piccolo manuale dei giochi di una volta. Quindi, come sempre, anche nella scrittura di Guccini rientrano i temi a lui cari, la memoria, il ricordo, i personaggi di provincia, per esempio quelli che si muovono nell'ultimo romanzo da lui pubblicato, che si intitola Un matrimonio, un funerale, per non parlare del gatto. In realtà è una serie di racconti, insomma, dove si parla di alcuni personaggi che secondo Guccini vale la pena ricordare, vale la pena fissare nella memoria di tutti. Bello, guarda, sarebbe poetico chiudere con Guccini, chiudere con questo consiglio, ma ti inchiodo le tue responsabilità. È ovvio. Ci hai promesso da 2 settimane che ci avresti detto dei 2 libri dedicati al pugile Zingaro, ecco, che fu, insomma, che vinse durante il nazismo, però gli fu tolto il premio, il titolo di campione, appunto perché Zingaro. Sono usciti quasi in contemporanea Razza di Zingaro di Dario Fo, pubblicato da Chiare Lettere, e Alla fine di ogni cosa di Mauro Garofalo, pubblicato da Frassinelli. Mauro Garofalo è praticamente quasi un esordiente nella narrativa, questo è il suo primo romanzo, e io vi devo dire che per me vince Mauro Garofalo, perché il libro è intensamente poetico. Mi spiace per il Nobel Dario Fo, che comunque avrà e ha tante soddisfazioni, non ha bisogno del commento di Alessandra Tedesco per andare avanti, ma il libro di Mauro Garofalo l'ho trovato molto più coinvolgente e veramente poetico, intenso. Alla fine di ogni cosa racconta la storia, appunto, di questo pugile Zingaro che cerca di sfidare il nazismo negli anni 30. Che bello, Alessandra, sono molto contenta di averti ritrovato in questo spazio dei libri, anche a distanza, anche qui da Sanremo. La prossima settimana giuro che saremo insieme, come sempre in studio insieme. La prossima settimana parliamo degli scrittori che vogliono cantare. Facciamo un karaoke con gli scrittori, sarebbe un'idea. Non sarebbe male. Alessandra, l'appuntamento col cacciatore di libri e col podcast? Come sempre, è il sabato alle 6.30 per i mattinieri, alle 22 per tutti gli altri. Podcast su radio24.it. Potete seguirmi su Twitter come Ale Teddina. Grazie Alessandra, al prossimo sabato. Ciao. Il sabato del villaggio. E bentornati in questo sabato del villaggio, versione Sanremo. Da Sanremo abbiamo ancora due ospiti per la fine di questa seconda ora del sabato del villaggio, poi saremo ancora insieme fino alle 18. Ancora due ospiti tra quelli che sono stati maggiormente amati, che sono stati un po' delle sorprese a Sanremo. Intanto partiamo con il cinema, ne abbiamo già parlato con Franco D'Assisti, Perfetti Sconosciuti, che sta andando molto bene questo fine settimana. È appena uscito quel film di Paolo Genovese che racconta di una cena tra amici, di un incontro tra amici in cui aprire il contenuto del proprio cellulare, svelare il contenuto del proprio cellulare provoca le reazioni più inaspettate. Ecco, a presentare il film sul palco del Festival di Sanremo è stata una grande sorpresa, un'attrice bravissima ma che ha dimostrato di saper fare anche altro, Anna Foglietta. Noi l'abbiamo incontrata poco prima dell'esibizione. Bravissime, bellissime protagoniste, attrici meravigliose del cinema italiano. Anna Foglietta e Kasia Smutniak. Anna, voglio sapere intanto cosa rappresenta per te Sanremo, perché salire sul palco dell'Ariston può essere una grande emozione, può essere niente, può essere un impegno professionale come tanti, o... No, è una grandissima emozione, anche una grandissima soddisfazione. Penso che sia, come dire, una tappa importante, no? Io sono legata comunque ai ricordi di una Rai ormai sparita, cioè la Rai dove c'erano appunto Mina, dove si esibivano i grandi big veramente, ma anche ricordi ovviamente più recenti, quelle appartengono alle teche della Rai, che rivedo sempre con grande piacere. Però in realtà io mi ricordo l'esibizione di Anna Oxa e Fausto Leali, l'esibizione di Massimo Ranieri, Aleandro Baldi, tutta quella roba lì mi appartiene tantissimo, mi tenevano incollata davanti alla televisione. Io credo che Sanremo sia una giostra che faccia parte proprio del nostro DNA di essere italiani, e rinnegarlo sarebbe veramente uno scempio. Vai a Sanremo, parli del tuo ultimo film che ha colpito tutti, recensioni positivissime, te l'aspettavi? Sì, perché Paolo Genovese ha fatto veramente un gran bel film, ha riunito un cast molto molto bello e il film è venuto meglio di quello che ha scritto, per cui aspetta che spengo il telefono altrimenti rischiamo, perché se no guardiamo cosa c'è sul telefono, come dice esatto, il film, esatto, altrimenti rischiamo veramente di fare la stessa cosa che succede nel film. Per cui insomma diciamo che c'erano tutti i numeri, e quando generalmente una sceneggiatura è così ben scritta è veramente difficile sbagliarla. Però Paolo ha fatto una virata interessante sul suo percorso di regista e ne sono veramente felice, perché gli voglio molto bene, siamo molto amici, per cui spero e credo che Paolo Genovese raccoglierà grandi frutti da questo suo lavoro. Una commedia che però appunto per il tema che tratta ha creato anche il dibattito, lo spunto di riflessione, non è male. No, anzi, io credo che ormai, visto anche lo sfruttamento che possiamo fare noi dei social, sia interessante toccare all'interno di film tematiche che si possono poi sviluppare e analizzare anche tramite dei social. E io penso che questo film diventerà un caso, già lo è praticamente, perché sento persone che ancora non l'hanno visto e già discutono, già litigano, già si sono lasciate per colpa del nostro film, altre persone invece che sono molto attratte perché pensano appunto che possa essere uno spunto di grande riflessione. Il cinema, l'arte in generale, credo che abbia questo compito, no? Di farci riflettere e quindi di conseguenza renderci persone migliori. Diciamolo che io e te ci frequentiamo sui social. Siamo grandi amiche di Twitter, ci ritwittiamo a vicenda ogni tanto e questa cosa ci piace parecchio, Marta Cagnola. Sì, quindi alla fine hanno... Spesso si dice, si guardano con un po' di diffidenza, però noi ci divertiamo. Ma ti posso dire, io quando sento che dici delle cose fighe sulla tua trasmissione, io ti rispondo e ti ritwitto, perché ci rende tutti un po' più vicini. E poi veramente si possono fare delle amicizie interessanti, si possono conoscere persone che starebbero dall'altra parte del mondo. Io credo che siano strumenti, se usati consapevolmente, di grandissimo valore, altissimo valore. Ultima domanda però, su Sanremo noi ci incontriamo poco prima che tu arrivi al teatro Ariston, chi ti guarderà con più ansia? La mamma a casa, non so, perché Sanremo è Sanremo. Mio marito. No. Mio marito mi guarderà con un'agitazione, perché mio marito è il mio più grande fan, e perché poi lui sa veramente quanti sacrifici, no, da mamma, da attrice faccio durante la vita. Anche questo di stare qui all'Ariston è un sacrificio, perché puoi immaginare, sono reduce da una tournée teatrale in scena con Alda Merini, e sto preparando un nuovo lavoro per Rai 1. Insomma, è un po' schizofrenico il nostro lavoro, per cui lui sa quanti sacrifici e quanta dedizione io ho per questo lavoro e quanto rispetto, per cui lui è colui che detiene dentro le sue mani, dentro il suo cuore, questa grande donna che sono io, ma grande per lui, non perché lo sono. Che meraviglia. Alla fine anche salire sul palco del teatro Ariston un po' raccogliere la soddisfazione tangibile di un lavoro. Sì, sì. È vero, questo lo riconosco. Io sono sempre molto, forse a volte troppo umile, quindi non mi do mai a volte il valore reale di quello che faccio. Però adesso devo dire, è un momento in cui mi sto guardando alle spalle e dico, beh, di strada ne ho fatta, mi piace aver macinato tutti questi chilometri, aver mangiato anche tanta polvere, però è una soddisfazione stare su quel palco, davvero grande, sono felice e fiera di me. Grazie. Grazie a te, Marta. Ciao, una ragione che cresce in me e l'incoscienza svanisce, capito? È come un viaggio nella notte finisce. Dimmi, dimmi, dimmi che senso ha dare amore a un uomo senza pietà, uno che non si è mai sentito finito, che non ha mai perduto. E un'altra esibizione che ha sorpreso, ma anche commosso e toccato, è stata quella di Nino Frassica. Ha fatto ridere e poi ha proposto una canzone, A mare si gioca, scritta da Tony Canto, una canzone che parla di immigrazione e parla di bambini che perdono la vita, ispirata dalla storia del piccolo Aylan. Una canzone nata come una fiaba che l'autore ha raccontato alla sua bambina per spiegare quello che sta succedendo. I proventi della canzone andranno all'associazione AIBI. Noi abbiamo parlato di questo progetto con Nino Frassica durante un pranzo molto animato. Lui è stato veramente delizioso, come sempre. A mare si gioca, si possono fare i castelli di sabbia, si può stare sotto l'ombrellone a fare le parole crociate, si può giocare con le racchette e la pallina, si possono fare volare gli aquiloni e si può scrivere il proprio nome sulla sabbia. Quando hanno fatto leggere il testo, prima di sentire la musica, ma questa è bella, però bellissima, possiamo fare una canzone, una cosa, già c'è la musica. Se c'è la musica, arriva questa musica era che si sposava perfettamente con quel testo. Io non faccio l'attore, la dico, non recito. Ma dico quello, sono quello che trasporta il Caronte. A recitare è quasi una cosa, c'è l'artificio nel recitare. A me, veramente non mi piace manco nelle fiction, nelle cose. Recitare già sembra uno che fa, che c'è uno sport. Invece direttamente l'ho imparata e la dico, sono il portavoce di una favola semplice, se c'è il tono, diciamo, appunto della favola, ma neanche più di tanto. A sto punto una canzone quasi per fare una cosa anche originale, a cantarla al festival. Cosola Carlo l'ha sentita, ha detto questa questa vieni, la fai. Poi è stata lei stessa che camminava, lui l'ha sentita e ha detto ma no, questa facciamola, diamogli, ho detto un'altra cosa, anche perché per regolamento se si parla soltanto non si può, c'era cosa, minchia signor tenente, però era cantare. Nino, tu sei in questo momento uno degli attori più amati, il fatto che sia tu a portare questo messaggio, secondo te cosa senti che può dare di più a questo messaggio? Per me io non è che ci faccio caso a questa cosa qua del momento, della materia, è una cosa anche casuale, non è che è capitato questa coincidenza, questa cosa, mentre sta avendo successo, perché ti riferisci a Don Matteo, questo successo è una coincidenza, non c'è, non è che ho fatto, visto che adesso sto andando forte, cosa da fazio. No, no, era una cosa che... Sì, però non è solo un buon momento, è anche l'affetto, che è una cosa diversa, perché ci sono persone di successo ma senza l'amore così incondizionato. Tu proprio nei tuoi confronti lo senti l'affetto? Sì, sì, sì, non lo sento. Quindi, poi di fronte a queste cose qua io sono il primo a dire subito sì, perché noi abbiamo un potere, no, che ce lo dà il pubblico, che possiamo fare più di un anonimo. Quindi quando io non è la prima volta che faccio, aderisco a delle cose di beneficenza o di cose, siccome c'è tanto da fare, cose, io sono disposto, accetto quando dice fai il testimone, la testa cosa, sempre, perché mi sento in debito, perché faccio parte dei fortunati, no? Ci sono bambini che giocano a stare immobili con la faccia in acqua, senza respirare, perché tanto lo sanno che sta per arrivare la mano forte del papà che li prenderà e li farà giocare. Mamma si gioca. Radio 24, Sky e RDS ti aspettano per le selezioni di RDS Academy, l'unico format TV che ti apre le porte del mondo della radio. Invia ora il tuo provino tramite l'app o su radio24.it. Il sabato del villaggio. Questa è la terza ora del sabato del villaggio, ancora buonasera da Marta Cagnola, una puntata speciale questa perché stiamo andando in onda dal Festival di Sanremo, in questo momento dalla sala stampa dell'Ariston Roof, cioè il tetto del teatro Ariston dove i giornalisti vivono chiusi per una settimana. È una puntata speciale e quindi abbiamo tenuto la sigla del sabato del villaggio, staremo insomma sotto il cappello, l'ombrello, anzi viste le condizioni atmosferiche del sabato del villaggio per tre ore. Ma possiamo non collegarci almeno con Daniele Bellasio per sapere se ha visto questo Festival di Sanremo di cui stiamo parlando durante tutto questo pomeriggio speciale? Ma prova a vedere se ce l'abbiamo in linea. Buonasera Daniele Bellasio. Ciao Marta. Ah, ecco. Buonasera, ciao. Beh, poca voce. Morgan. Ah, pensavo avessi cantato tutta settimana le canzoni di Sanremo e per questo non ce l'avessi più, no? No, è colpa di Verona-Inter di domenica scorsa, credo, e poi un po' il freddo, non so bene. Comunque, tanto se Morgan ha cantato, io posso un po' parlare, dai. Ecco, okay, allora, no, sono guarda, un fan di Morgan, sei cattivo. E Morgan che, peraltro, sta passando davanti a me in questo momento e c'è un sacco di gente che lo sta fotografando perché è molto, molto, molto amato, è circondato da telecamere e da macchine fotografiche. Allora, hai detto Verona-Inter, ma tu questa sera guardi il Festival di Sanremo o la partita? No, ho guardato tanto, sono stato bravo, ho fatto i compiti, l'ho guardato tanto e quindi puoi interrogarmi se vuoi che ti dica cosa ne penso. Ma hai una già un'opinione lapidaria così da darmi subito come ricetta? Sì. Allora, Sanremo di Bellasio? No, voglio farti subito arrabbiare, cioè secondo me Carlo Conti è forse il miglior conduttore televisivo in questo momento. Però come direttore artistico del festival non ci siamo. Cioè, nonostante gli ascolti pazzeschi non sei contento? Ma scusami Marta, tu te ne intendi sicuramente molto più di me, ma il livello delle canzoni mi sembra molto molto deficitario quest'anno. No, devo dirti, allora, per quanto riguarda le canzoni, io posso solo lamentarmi del fatto che ci siano molte ballad. Io avrei preferito un po' più di varietà, ecco. Questo lo posso dire, però dai, livello basso no, non sono d'accordo con te. Perché forse le hai sentite poche volte. Va bene, è vero. Stavo pensando la stessa cosa, che alcune canzoni vanno sentite più volte. Però io sinceramente, tolto Patti Bravo, gli Stadio e forse Clementino, non ho sentito delle belle canzoni, devo essere sincera. Allora ti posso proclamare che il mio premio della critica è andato a Patti Bravo. Lo immagino. Tra l'altro sì, voi quest'anno sì, siete sì, importantissimi perché votate tantissimo anche quando non votate. Abbiamo abbiamo votato tantissimo fino alla penultima serata. C'è stata la serata del problema del voto dei giovani, una specie di rivolta. Tu la conosci la sala stampa perché ci sei stato, una specie di rivolta. Abbiamo cominciato a urlare, a tirare oggetti, perché obiettivamente noi non stavamo votando, cioè il nostro telecomandino dei voti non funzionava e quindi non stavamo votando. Insomma, è stata una sommossa. Comunque siete stati importanti. Comunque, al di là di tutto, però, invece, come conduttore Carlo Conti è pazzesco, cioè non sbaglia mai. No, mai, incredibile. Non sbaglia mai e ha questo ritmo da macchina da guerra, cambiando continuamente i toni. È veramente impressionante. Veramente incredibile, Daniele. Allora, ascolti. Patti Pravo, io devo dirti, poi alla fine ho amato tanto anche Valerio Scanu, ma l'ho detto dall'inizio, ho amato tanto Arisa. Sono tante canzoni che probabilmente mi terranno compagnia, alle quali vorrò bene, però certo che per la critica, mi sembrava giusto omaggiare la Patti. Ti volevo chiedere se tu l'hai seguito solamente in TV o anche sui social, perché secondo me, e tra poco ne parleremo anche con qualcuno che ha analizzato proprio la situazione, Sanremo è sempre di più evento, forse ancora, cioè c'è un Sanremo parallelo. Tu ti sei divertito a guardare un po' i social? Allora sì, anche perché questa volta devo ammettere una cosa, ero un po' in soggezione, siccome è veramente esploso sui social network. Questa volta io personalmente ho fatto forse un tweet questo, dicendo che dopo che aveva cantato Patti Pravo il festival era finito perché lei aveva vinto, ma per il resto davvero è stata le timeline sono state monopolizzate. Poi c'era l'idea del simbolino della S che compariva, quindi faceva sentire tutti un po' in squadra. Certo, la gara di arguzia nelle battute sta diventando un po' stucchevole. A volte forse bisognerebbe tentare di fare dei commenti anche al di là dell'idea di fare una battuta arguta, ecco. Sono d'accordo con te, si cerca sempre di alzare l'asticella anche andando verso il cattivo gusto. Beh, ha fatto notizia per quanto riguarda i tweet, la reazione simpaticissima del pianista Ezio Bosso, che sì, alla battuta cattivissima, ma com'è pettinato, e diciamo che era un po' più volgare di così, lui, che è affetto da una malattia molto grave, ha risposto: è perché mi cerco sempre di pettinarmi da solo, in maniera molto spiritosa. Intanto qua, se senti dei rumori sempre più forti, è perché stanno sono i Blu Vertigo che stanno attraversando la sala stampa con decine di persone attorno. Penso che cercheranno di prendere gli ascensori per scendere, non so esattamente come faranno. Senti, ma poi a proposito di social, possiamo dire ai conduttori, agli ospiti: abbiamo capito che volete essere moderni, ma anche se non vi fate sempre i selfie nello stesso modo, cioè ormai basta, abbiamo capito. Basta. Cioè, era una roba divertente, intelligente, esatto, più di un anno fa, due anni fa. No, è verissimo, Fighissimo invece Morgan sullo skateboard, ma io non sapevo, ma è bravissimo sullo skateboard. È bravissimo, sì, si è anche piantato una caduta che si è fatto anche un po' male, però ci stava nel... Senti, invece le conduttrici e il valletto, il co-conduttore, come lo vogliamo chiamare, allora, come sono parsi? La più brava è, come si chiama, Maddalena. Ah certo, il talento con di conduzione di Maddalena, no, sono d'accordo con te. Sono sincero. No, dai, poverina, ma non è che non è brava, è che non le hanno fatto fare niente, non si sa cosa sia in grado di fare. Però risulta naturale, su Garco vabbè, è ottimo. Invece è abbondante, molto abbondante. Molto abbondante, una cosa, Virginia Raffaele è bravissima, però non lo so, ne parlavo prima con Cristian Goldoni in regia, ma proprio tutta la sera lo stesso personaggio, non lo so. Sai che l'ho detto anche a Gianluca Nicoletti quando abbiamo fatto Melog, lei è straordinaria, mi sarebbe piaciuto vederla magari metà personaggio, metà no. Brava. Ma mi hanno spiegato che i trucchi sono, il make up e gli effetti speciali sono talmente complessi che servono 4 ore di trucco almeno per trasformarsi in un personaggio, però purtroppo altrettanti, forse quasi altrettanti, per ritornare a un aspetto normale, quindi era anche tecnicamente molto difficile. Allora, veramente sono giustifica. La faccia comunque era perfetta, era una cosa strepitosa. Si è superata, io sono impazzita, ridevo fino alle lacrime. L'ha chiamata la Fracci dicendo, ringraziando, sì, salutando. Sì. Beh, forte. Sa che ci sto prendendo gusto io a fare questa conduzione? Bene, allora continuiamo, dai. Sì. Annunciamo un altro cantante. Benissimo. Dall'Ara Tony. No. Tony Dallara di non Capri, c'è. Peppino. No, non c'è neanche Peppino di Capri. Tozzi Umberto? No, ci sono dei cantanti nuovi in gara. Va bene, signor. Conti. 5-6-6-8. C'è un mazzo di fiori. Ecco, bravo Gabriel, ecco qua. Un mazzo. Che ecco giovanotto qua. Prestante. Questi sarebbero i fiori? Certo. Li può anche tenere. Scusi? Poveracci. Scusi? Carla Fracci, piacere. Gabriel Garco. Ah. Bene, allora Gabriel Garco, Garco Gabriel, sulle spalle, giù le spalle, addome in dentro, glutei stretti. Oh, che gluteo imponente, Comprendere. Cosa ti resterà secondo te di questo Sanremo? Perché sai, io non so più come vivere il Sanremo da spettatori. Io ormai... Allora, a me resterà il fatto che quando sono comparsi i Pumi è venuto in mente che, grazie a te, io li avevo intervistati. E tra l'altro mi è venuto in mente che c'era un po' sempre lo stesso atteggiamento nel contenere i fricci e lacci di Riccardo Fogli, che è un grande. È vero. Ma quando Roby e Riccardo si sono lasciati sfuggire la lacrimuccia, io mi sono ricordata di tutto quello che ci hanno detto quando abbiamo fatto RadioTube con loro, di tutto quello. Sì. Però si sono già allargati, ho già capito che insomma praticamente vanno avanti tutto l'anno. Poi sì, sta? Io beh già dovrò prendere un sacco di serate libere perché non voglio perdermene neanche uno e quindi andrò praticamente in tournée con i Pooh. Grandi emozioni, devo dire bello questo continuo variare di tono tra commozione, emozione, sono molto contenta. Daniele, noi ci ritroviamo il prossimo sabato, prometto che torno a Milano. Sì, speriamo di ritrovare sì, anche sì, tu ritrovi la voce. Io ritorno a Milano, ritroviamo la sigla di RadioTube e tutti i nostri appuntamenti normali. E niente, al prossimo sabato, Daniele, noi ci ritroviamo tra poco, dopo il traffico, tra poco. Ciao Daniele. Divertiti. Siamo noi. Il sabato del villaggio. E ci ritroviamo insieme, sempre qui dal Teatro Ariston di Sanremo. Comincia a esserci un po' di confusione perché l'attesa è tanta, perché come sapete i momenti topici stanno per arrivare. Però in questo speciale Sabato del Villaggio da Sanremo non possiamo dimenticare anche un po' gli argomenti che di solito a quest'ora affrontiamo in RadioTube. E quindi l'interazione tra la televisione e i social. Quale evento migliore di Sanremo? Non lo so, io lo chiederei a chi fa delle analisi sempre precise, sempre attente, che spesso amiamo citare, Reputation Manager. Per Reputation Manager abbiamo Andrea Barchiesi. Buonasera Andrea. Grazie, buonasera. Andrea, Sanremo non c'è neanche da dirlo, è andato benissimo, è un evento social per eccellenza. Beh, sì, la cosa veramente interessante è che si sta creando quasi un collaterale social di Sanremo che prende anche forme e colori completamente diversi, a volte anche diciamo non in sincronia con Sanremo stesso, molto importante però. Cioè si manifestano dei sentiment, cioè delle tendenze, dei gusti diversi da quelli che magari, dei risultati diversi magari di quelli della classifica ufficiale. Cosa sta succedendo, Andrea? Ma la cosa interessante è che Sanremo anzitutto conferma ad essere un grande appuntamento anche dal punto di vista dell'interazione social, in crescita anche rispetto all'anno scorso, e soprattutto non è più solo oggetto di discussione, ma è anche portatore di discussione, perché le persone utilizzano anche Sanremo per discutere anche di altro, quindi diventa portatore anche di altri temi. Come un po' Sanremo stesso poi tende a fare. Allora, so che c'è un artista particolarmente amato e che insomma sul quale si appuntano ad esempio moltissime aspettative per il televoto. Sì, Valerio Scanu è al momento il più amato dai social e anche con una certa cromaticità, perché ricordiamo che non è solo importante essere citati nei social network, ma anche come ad esempio tra i presentatori Gabriel Garco è sicuramente il più citato. Ma una cromaticità e un sentiment un po' più polarizzato verso alcune difficoltà. Nome? Nino Frassica. Gabriel Garco. È un nome d'arte? Il mio è un vero nome, ho cambiato nome da poco. Il vero nome? No, sì. Il mio è il nome d'arte. Io all'anagrafe mi chiamo Tony New Star Dance 2000. Allora, per fare un nome più orecchiabile, ho scelto Lino Frassica. Professione? Attore. Intellettuale. Altezza? 1,92 m senza scarpe. Io 1,73 m a stomaco vuoto. Li conoscevate prima di oggi? No. No, no, io però conoscevo la mamma. Se Greta Garco. Cosa apprezzate l'uno dell'altro? Quando recita mi fa ridere. Pure a me, quando recita lui mi fa ridere. Ecco, Andrea, tu che ti occupi di reputation, quindi anche di reputazione, possiamo dirlo in italiano, in rete, ma conta anche che il sentiment sia positivo o basta che se ne parli in rete? No, purtroppo è molto importante che il sentiment sia positivo, perché ovviamente se si viene citati molto più degli altri, ma questo è disvaloriale, ovvero si è citati negativamente, si è un po', tra virgolette, un oggetto di ironia più che un oggetto di ammirazione. E questo non fa bene, cioè se ne parla ma non serve a una carriera. Immagino, insomma, accada come per le aziende, non serve all'immagine dell'azienda, non serve all'immagine di un personaggio. No, non solo non serve, ma addirittura il personaggio poi viene connotato con degli esempi molto negativi e quindi a vari livelli diventa, tra virgolette, poi un po' scomodo. Immaginiamo uno sponsor, non vorrebbe essere associato ad un personaggio molto citato negativamente. Andrea, abbiamo detto Valerio Scanu, tra quelli molto amati sono abbastanza stupita perché troviamo Patti Pravo e Noemi. Insomma, Patti Pravo, che non è giovanissima, è la meno giovane del festival, ci immaginiamo che a twittare siano i più giovani, ma magari no, non lo so. Cosa mi puoi dire in merito? Ma sostanzialmente il fatto che siano solo i giovani ad essere presenti sui social network ormai è qualcosa da sfatare. Diciamo che cominciano ad essere molto presenti anche generazioni, addirittura anche over 55. Questo non vuol dire che l'esploit di Patti Pravo sia dovuto principalmente a questa generazione, perché per ottenere questo risultato bisogna essere trasversali. Di conseguenza, quindi, Patti Pravo in qualche modo è trasversale alle generazioni, esattamente come abbiamo visto durante le serate i Pooh, che hanno ottenuto un grande risultato, un grande riscontro, proprio per la loro intergenerazionalità. Parliamo di hashtag. Alla fine l'hashtag che si diffonde è Cancelletto Sanremo 2016, come era stato negli anni precedenti, Sanremo 2015, Sanremo 2014. Nascono però moltissimi hashtag diversi, alcuni dei fan, alcuni magari sponsorizzati, legati a qualche iniziativa. Ovviamente però quello tra virgolette ufficiale è quello più diffuso. Tra l'altro quest'anno è nato anche che l'hash flag, cioè l'immagine, la piccola emoticon che appare, la piccola S su Twitter che appare se uno digita hashtag Sanremo 2016. Sì, la cosa interessante, come dicevamo prima, è che saremo anche portatore di idee. Ad esempio, con l'1,4% in media nelle serate compare l'hashtag Sanremo Arcobaleno. Quindi diciamo non è un hashtag dominante, ma sicuramente un hashtag presente che dà proprio l'idea di come Sanremo vada un po' oltre il valore della competizione canora, ma arrivi anche ad un valore, tra virgolette, anche di opinione popolare, di condivisione di idee. Buonasera! Che meraviglia, cadete, dammi un bacio. 20 anni dal tuo debutto su questo palco, sul palco dell'Ariston, esatto. A fianco di Pippo Baudo. Sì, conducevo, una parola grossa. Insomma. Sì, conducevi. Dicevo due parole in croce, cioè... No, mostravo la mercanzia, hai capito? Beh, è vero, mostravo, pensa che i tecnici all'epoca mi urlavano dietro di quinta, abbona! Prima sono passata, mi hanno detto buonasera. È rimasto tutto così fermo. Io nel 96 mi sono scordata un paio di ciabatte in camerino, ho ritrovato stasera. Sì, ora. Ti giuro, le stesse, è vero. La polemica è su Elton John. Appunto, ecco. Hai capito? Basta con questo Elton John. Allora, mo perché, cioè, ci sta Elton John e uno spot per gli omosessuali. Allora, quando c'è stanno i buche, è una marchetta per l'Inps, non ho capito. Ma Sabrina! Sai che ho fatto Rugantino, non è che... No. Io sono attrice, eh? Non è come a Bellucci e sbatto l'occhio e arriva il bonifico. Allora, Pinuccio, dammi una nota, va. Una bella cosa romantica per me, vai. Osteria numero 20, Carlo Conti stringi i denti, se l'ascolto è un po' inferiore stringi pure il posto. me la metto. Vabbè, è stata amatissima dalla critica Virginia Raffaele, anche sui social? Assolutamente sì, è una delle connotazioni più positive sia a livello volumetrico, sia a livello, come dicevamo prima, proprio di qualità dell'interazione. È una colonna, tra virgolette, portante di questo festival, guardando i social, e addirittura alcuni hanno auspicato che tutta la puntata sia fatta integralmente da suoi interventi e da sue parodie, quindi molto forte. Voi come state lavorando per setacciare i social, soprattutto per setacciare Twitter? È un lavoro, mi incuriosisce molto sapere come lo fate. È un lavoro molto tecnologico, molto nerd per essere in gergo, perché richiede il saper acquisire con base tecnologica veramente qualcosa come centinaia di migliaia di messaggi e poi rielaborarli per tirare fuori un senso. C'è un po' come in un fiume riuscire a capire dove sono le correnti. Visto dall'alto è tutto estremamente caotico. Penso che chi potesse vedere un nostro monitor con i dati che scorrono diventerebbe pazzo in 5 minuti, un po' stile Matrix. Vi scorrono davanti tutti i dati, voi dovete notare se c'è qualche tendenza che spicca e tenere d'occhio quella? Tendenzialmente sì, poi ovviamente siamo aiutati dalla tecnologia che lateralmente a questo flusso dati tende a sintetizzare, estrarre e a dare dei significati, collegarli in qualche modo. Andrea, ti chiedo un'ultima cosa, ma secondo te c'è qualche tendenza generale che si può rilevare in questo Sanremo, visto che non è il primo che analizzate? Quali sono i connotati generali sui social di questo Festival di Sanremo? Ma la cosa curiosa che stiamo cominciando a notare è che sempre più sta diventando una trasmissione della trasmissione. Alcuni, chiamiamoli telespettatori, sono quasi più divertiti dalle battute, dalla creatività, perché di questo si parla, degli altri utenti, su come commentano il real time della diretta. Di conseguenza quindi sta diventando uno spettacolo nello spettacolo. È secondo te il futuro della televisione questo? Già un po' il presente, ma è sempre di più anche il futuro? A mio avviso sì, e stiamo vedendo solo l'inizio. Cioè, uno degli scenari futuri è che la trasmissione cambi e si evolva in modo legato proprio a questa onda, perché in realtà in questo momento noi abbiamo delle trasmissioni che hanno un palinsesto chiaro, una direzione chiara, ma raramente si modificano in funzione della pulsazione di tutta questa massa. A nostro avviso, un domani, neanche lontano, vi sarà una interazione tra i due mondi, e mano a mano che l'interazione diventa più calda, magari la trasmissione dilata l'aspetto più coinvolgente, mentre restringe al contrario gli aspetti meno coinvolgenti. Quindi la prossima settimana io cercherò di sapere, diremo agli ascoltatori, chi ha vinto il festival secondo i social, e così capiremo se i social hanno avuto dei gusti diversi rispetto alle giurie, al meccanismo complicato che questa sera porterà al vincitore del Festival di Sanremo. Io ringrazio Andrea Barchiesi, Reputation Manager, grazie anche per questo lavoro divertentissimo per noi da leggere, ma molto difficile per voi da realizzare, su tutti i dati dei social per quanto riguarda il Festival di Sanremo. Grazie a questo Andrea. Grazie a voi. E noi ci ritroviamo tra poco dopo una breve pausa, sempre dal Festival di Sanremo. Sono dappertutto. Arrivisti, truffatori, ladri, corrotti. L'Italia sembra perduta. Eppure un manipolo di eroi resiste. Se non vuoi cedere al lato oscuro della forza, ascolta. Si può fare. L'unico inimitabile programma di attualità ottimista. Siamo sicuri di farcela? Sicurissimi. Allora che la forza sia con noi. Si può fare con Alessio Maurizi e Carlo Gabardini, il sabato alle 7:30 e la domenica alle 8:30 su Radio 24. Il sabato del villaggio. E siamo tornati insieme con questo sabato del villaggio speciale Sanremo, 3 ore per parlare di Sanremo, ma non solo. Abbiamo parlato con gli artisti, abbiamo parlato degli artisti, abbiamo parlato della ricaduta in rete, insomma tanti, tantissimi argomenti. Ma dopo Sanremo cosa dovremo attendere? Beh, dobbiamo attendere, come tutti gli anni, l'Eurovision. Sapete che qua siamo dei grandissimi fan dell'Eurovision. Arriverà a maggio, l'abbiamo già citata nel nostro appuntamento con le tecnologie con Enrico Pagliarini. il vincitore di Sanremo ha diritto a partecipare all'Eurovision. E con chi parlare Eurovision se non con il massimo esperto, il nostro carissimo amico del Sabato del Villaggio, Eddie Anselmi. Buongiorno Eddie, eccoci. Buongiorno Marta, buongiorno a tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori del Sabato del Villaggio. Ebbene sì, beh, siamo in fibrillazione perché tra poche ore scopriremo chi è il campione o chi sono i campioni ad avere guadagnato questo biglietto per Stoccolma. Allora, biglietto per Stoccolma che ha di diritto chi vince, a meno che decida di non partecipare. I cantanti hanno già dovuto dire se parteciperanno oppure no? Diciamo che la maggior parte di loro, la grande maggioranza di loro ha accettato l'invito a Stoccolma. Qualcuno, ma è assolutamente un segreto, obbliga la RAI a un piano B, quindi di decidere secondo altri criteri che non sono ancora stati formalizzati. Ecco, quindi qualcuno ha detto ad esempio non posso partecipare perché ho un tour. Non ne ha fatto misterio Elio, le storie tese l'hanno detto, per noi sarebbe un problema perché in quei giorni siamo impegnati, alcuni magari hanno dei piani diversi in quel periodo, quindi quello che vince va di diritto, se decide di non andare poi a discrezione dell'organizzazione? Il regolamento dà discrezione all'organizzazione di decidere secondo ampi e non specificati criteri e non necessariamente tenendo conto degli iscritti al festival. Poi dopodiché un patto editoriale con gli spettatori suggerirebbe di tenere conto invece di criteri più attinenti al festival, alla classifica del festival. Lo scopriremo solamente stasera. La speranza ovviamente è che chi vince voglia andare. Allora Eddie, qual è secondo te il candidato perfetto per l'Eurovision? L'anno scorso il volo, lo posso dire io, non lo dici tu perché è un incarico istituzionale, quindi io lo posso dire, secondo me quella vittoria ce l'hanno un po' scippata, qual è secondo te quest'anno il candidato ideale tra i big di Sanremo? Allora ritorno prima di tutto sulla vittoria scippata, non è stato uno scippo, è stato un regolamento all'Eurovision che dà particolare potere ai giurati hater. Il giurato di Sanremo non può votare contro, può solo votare a favore o ignorare, esattamente come il televotante vota a favore o ignora e la giuria demoscopica qui o vota a favore o ignora. Il giurato dell'Eurovision deve mettere in ordine dall'uno all'ultimo le canzoni e quindi può penalizzare le canzoni che odia mettendole all'ultimo posto. C'erano 30 persone su 200 a cui non è piaciuta in modo particolare la nostra esibizione o che avevano un amante italiano che li ha traditi, che ne so. Certo, può essere anche quello. E hanno messo l'Italia all'ultimo posto, quindi penalizzandoci e togliendoci quei 50 punti che ci hanno fatto poi non vincere. Allora, c'è una cosa che vorrei chiarire. Tu spesso parli di esibizione all'Eurovision in termini anche visivi. C'è qualcosa di molto diverso rispetto a quello che avviene a Sanremo. Noi a Sanremo vediamo, sì, il vestito, l'espressione scenica, ma all'Eurovision è molto di più di questo. Beh, all'Eurovision noi si partecipa con 3 minuti di esibizione, non solo con una canzone. Se non l'abbiamo pronta, ovviamente ci viene fornita dai resident, dal palco regia, dai registi locali. Però non è come a Sanremo, dove ogni cantante arriva a Sanremo e poi la RAI fa tutto, prepara le 20, le 28 esibizioni. Lì siamo noi a dire vogliamo questo, questo e questo. E se noi non facciamo il compito, lo fanno per conto nostro. È chiaro che se lo facciamo noi, è la nostra responsabilità e possiamo puntare alla vittoria in maniera più decisa. Certo, c'è chi fa fuochi d'artificio, realtà virtuale, insomma ci sono anche cose veramente spettacolari all'Eurovision. L'idea è quella di mettere in fila tutte le inquadrature nel loro giusto ordine, raccontando una storia in quei 3 minuti di performance. Allora, diciamo quali secondo te sono quest'anno i big ideali per l'Eurovision. In un ipotetico cast, chi vorrei avere nel mio cast? Diciamo che in ordine, ce ne sono tanti, dico Francesca Michelin perché ha un visual fortissimo che si vede attraverso il video che ha lanciato ieri su Vevo. Dico Annalisa perché anche lei ha un bel visual, perché anche lei sa lavorare, sa interpretare e si potrebbe veramente realizzare una grandissima performance. Dico Jurato e Caccamo perché viceversa su questo palco mi sembrano lievemente un po' indietro, ma la loro squadra è forte, recettiva, ha fatto già Eurovision con Gualazzi e quindi sono sicuro che potrebbero essere più plasmabili e si potrebbe proprio realizzare qualche cosa partendo magari da zero. O Scanu, che è un personaggio televisivo e quindi conosce bene i meccanismi della televisione, vorrebbe magari applicare i meccanismi che l'hanno portato a successo in Italia e in Europa. Tra l'altro Scanu che ha conquistato Tale Quale Show con un'imitazione di Concita Wurst, quindi oddio, non credo che all'Eurovision potrebbe presentarsi vestito da Concita Wurst, però sarebbe un bel volano. Ma sì, sarebbe molto divertente pensare, secondo me si divertirebbe proprio Valerio all'Eurovision, potrebbe proprio entrare in sintonia con l'ambiente perché è un divo che è caduto e si è rialzato. e quindi sa cosa vuol dire cadere, sa cosa vuol dire anche poter entrare in un club senza pensare sono il divo, perché 2 anni fa non lo era più e poi è tornato a esserlo. Stai parlando di artisti tutti piuttosto giovani, bisogna essere giovani per partecipare all'Eurovision, giovani e carini? No, perché grandi successi sono stati ottenuti anche da artisti più âgé, come Patricia Cass, che è una grandissima artista francese che è stata l'ultima top 10 della Francia nel 2009. È chiaro che normalmente noi siamo un paese dove l'età media degli artisti è un pochino più elevata che nel resto d'Europa, quindi anche però voglio dirti, tornando a Sanremo, se un veterano Eurovision come Enrico Ruggeri facesse il colpaccio e vincesse Sanremo, sono sicuro che ci farebbe fare un figurone. Allora, cosa porta l'Eurovision a chi ci partecipa? Com'è andata agli artisti italiani in questi anni? Sono riusciti poi a conquistare davvero l'Europa? Quando l'hanno voluto, sì. Penso a Raffaele Gualazzi, che in un percorso di promozione ha inserito anche l'Eurovision, perché adesso in tanti paesi dell'Europa centrale fa il tutto esaurito, in teatri, con misurati, a Parigi in particolare, in Germania, in Olanda lavora molto bene. Non tutti gli artisti sono riusciti a sfruttare l'opportunità come un volano di mercato. Il volo, viceversa, ha le date, credo che sia pieno per tutto il 2016 e si parla del 2017 se vuoi una data col volo. L'Eurovision ha sancito in ogni caso la loro popolarità. E tu vai a Taiwan, nei negozi di dischi ci sono i dischi di Concita Wurst e quelli del volo, non c'è Måns Zelmerlou. Chi ha vinto l'anno scorso ce lo siamo un po' dimenticato, almeno noi in Italia. Noi prima dicevamo, guarda che volare, arrivo terza, vorresti essere quello che ha vinto o Domenico Modugno? Come si chiama quello che ha vinto? Nessuno lo sapeva, appunto. E quindi ci sono cantanti italiani che hanno avuto successo grazie all'Eurovision? Beh, Domenico Modugno ha avuto successo anche grazie all'Eurovision, Toto Cutugno ha avuto successo anche grazie all'Eurovision, Tozzi e Raff hanno utilizzato furbamente l'Eurovision come spettacolo di prima serata di Rai 1. Cioè Tozzi e Raff avevano il pezzo in uscita, avevano vinto Sanremo con Tozzi, che era tornato dopo qualche anno di lontananza dalle classifiche, dalle manifestazioni. Raff, dopo 2 anni, il secondo singolo in inglese non era andato bene, tornò nell'87 a cantare in italiano e funzionò e si aprì una carriera in italiano. E lo fece grazie all'Eurovision, che passò in prima serata su Rai 1 a maggio, era l'87, era il secolo scorso, ma funziona ancora. Quindi credo che uno di questi ragazzi che è in gara qua a Sanremo potrebbe dire: ok, il mercato europeo vediamo, magari non è alla mia portata, magari non è domani e dopodomani, però il giro su Rai 1 per avere la maglia azzurra un sabato di maggio mi piace. Ultima domanda, hai detto Rai 1, perché dopo qualche anno di silenzio, poi un ritorno su Rai 2 ha conquistato, come si suol dire, la rete ammiraglia, anche grazie al successo sui social che ha trainato gli ascolti, che sono andati benissimo l'anno scorso. Beh sì, è stato credo che il secondo programma più socializzato, il terzo programma più socializzato della televisione, credo solo secondo solamente a Sanremo e a una puntata di The Voice, il secondo programma di Rai 2, dopo una puntata di The Voice e un incontro di calcio, il secondo programma per decine di punti di Rai 4, ma dopo una puntata finale di un telefilm particolarmente seguito. Insomma, è andata bene, sono anni piatti in sordina, adesso il gioco è quello di andare su Rai 1 e ripartire in sordina piano piano, perché l'idea è quella che negli anni Eurovision diventi un cult in Italia come negli altri paesi europei, per poter far sì che sia una lingua comune europea, per poter sì far sì che il ragazzo italiano vada in Francia e abbia un argomento di cui parlare, perché se parla di Sanremo e di amici non lo capiscono, invece se parla della musica americana è americana, va bene, allora troviamo un argomento europeo di cui parlare, e questo secondo me è uno dei motivi per cui Eurovision è servizio pubblico. Intanto sotto di noi c'è sempre un po' di musica, perché dopo tutto siamo a Sanremo, ogni tanto parte così la musica, siamo nella sala stampa del festival, e di quindi appuntamento a Stoccolma a maggio. Appuntamento a Stoccolma il 10 e il 12 maggio per le semifinali, l'Italia te voterà nella seconda e poi la finale, dove i nostri campioni saranno di scena il 14 maggio, sabato, su Rai 1. Io voglio poi risentire Eddie in una delle prossime puntate del Sabato del Villaggio, perché ha scritto un libro divertentissimo su Rischiatutto, per cui ricominciare a parlare di Rischiatutto in attesa della trasmissione di Fabio Fazio. Quindi alla prossima occasione parleremo di Rischiatutto. Grazie Eddie Anselmi. Allegria. A presto. Il sabato del villaggio. Chiudiamo queste tre ore speciali del sabato del villaggio da Sanremo, in questo momento dalla sala stampa del Festival di Sanremo. Animazione a quest'ora, si sta cominciando a riempire perché si sente già aria di finale, e vogliamo concludere questo speciale sabato del villaggio forse con gli artisti che ci hanno fatto divertire di più in questa edizione di Sanremo, cioè Elio e le Storie Tese, che qui hanno presentato anche il loro nuovo album che esce in questi giorni, che ha un titolo molto molto particolare, si intitola Figatta de Blanc, e non possiamo che accoglierli con la loro Vincere l'odio. Elio e le Storie Tese. Se mi guardi con quel sguardo dentro agli occhi, io ti sfido a innamorarmi di te. Ma due occhi per sguardarsi sono pochi, per amarci ce ne vuole almeno tre. Sì, impegnativa, ma devo dire che c'è una parte di responsabilità mia, perché non ho usato nel modo giusto la tecnica che utilizzo negli ultimi anni. Questa sera mi impegnerò meglio, insomma. Devo anche dire che non è facile, ecco, non è semplice usare anche quella tecnica, quindi certo. È un po' un'arma a doppio taglio. È un po' anche l'arma segreta, diciamo. Io apprezzo il fatto, te lo dico da amico e componente della nostra stessa band, del fatto anche che tu non abbia voluto usare un'arma così potente e forse anche scorretta nei confronti degli altri colleghi cantanti che non ne dispongono, esatto. Mi sembra così. Non tutti, cioè, perché anche se non l'hanno annunciato, noi abbiamo visto che alcuni cantanti la usano. Sì, ma non è corretto. L'ha iurato, sì. È un continuo. È andato sposta. Mentre ma non nelle P. Così. Non nelle P. Sì, capito? Ma perché lei usa quell'altro. E perché, te lo dico io, perché ha fatto la scuola di canto Acapulco. La e usa un altro genere di tecnica. È come l'Ada, se la Acapulco. La tecnica camaleonte, che non sappiamo qual è. Sì, ma è un'altra. Perché qua zitti, poi tutti c'hanno una tecnica. Sì. Beh, in ogni caso oggi mi applicherò meglio. Ma visto che appunto abbiamo visto Rocco Tanica in sala stampa, nei collegamenti, insomma nel cast dei conduttori e non sul palco, se non nella serata delle cover, Rocco Tanica è uscito dal gruppo? Con lo spazio lo definirei siparietto, ma anche teatro di riviste. Trattandosi di giornali, anche perché il livello delle battute spesso è quello, quindi speriamo che non succeda come l'anno scorso, o forse speriamo che succeda, così lavoro meno e guadagno uguale, che non ci sia il collegamento del sabato come l'anno scorso. Accade una cosa molto bella, un piccolo retroscena che voglio raccontarvi. Allora va in onda un retroscena dell'anno scorso. Va in onda retroscena dell'anno scorso. Conduce e racconta Sergio Rocco Tanica. Mi trovavo nella sala stampa del festival l'anno scorso, il giorno della finale, e mi dicono: fra 5 minuti sei in onda, va bene, però fai una cosa breve, fai tipo 2 minuti, va bene. Dopo 30 secondi, no, guarda, è proprio un minuto, una cosa, cosa faccio in un minuto? Ma tu fai in un minuto, vai, tu ce l'hai, fai quelle tue cose tue, va bene, un minuto, poi, senti, solo il tempo di un saluto di ciao Carlo, dico, va bene, dico ciao Carlo, sono lì pronto, devi scendere subito, Carlo ti vuole sul palco, va bene, corro giù, concitato, e sul palco ci sono Arisa, Emma e Rossio, che stanno leggendo la loro lettera al festival, che nell'intenzione degli autori doveva essere di 20-30 secondi l'una, invece ogni intervento sfiora i 5, comprese le lacrime. E allora mi dicono, gli avevamo detto di fare 30 secondi, perché stanno facendo 5 minuti, vai dentro, interrompile! A me. E io dico, interrompile, come interrompile, in che senso? Fa, sì, interrompile, fai un'incursione delle tue. Che è una delle parole che, come i miei colleghi sanno, noi apprezziamo meno. Una è incursione, l'altro è disturbatori. Andatevi disturbatori. E allora avrei potuto avere il mio momento di gloria entrando a interrompere le colleghe, invece ho lasciato che una sorta di mestizia allegra facesse la sua parte, e ho una soddisfazione personale, e cioè che alla fine Carlo Conti, molto gentile, voleva comunque farmi un saluto a coda della trasmissione, e se andate ad ascoltarvi Sanremo 2015, Sanremo 2015 finisce così, titoli di coda e poi bene, il volo, grande trionfatore del volo, è stata una grande stagione, grazie a tutti, grazie a Rossio, grazie a Emma, grazie a il titolo dell'album è Figata de Blanc, spiegatecelo. Allora, eravamo lì come al solito l'ultimo giorno a dire come si chiamerà questo disco, Mumble, Mumble, Mumble, Mumble. Elio dice con un entusiasmo bambino che ancora io gli invidio, chiamiamolo Merda. La cosa poi, ammorbidiamo un po'. Non sarebbe stato facciamo, male. Sarebbe. Facciamo Merdata. Era un po' più morbido. Allora, siccome c'era anche di mezzo quel disegnino lì che già circolava, non so perché l'abbiamo detto, forse perché vagamente ricorda, fa no, chiamiamolo figa. figata, perché non ci ricordavamo se era reggata o regata, e poi figata. Questa è l'origine del titolo. Ma diciamo che come regola c'è sempre quella che vale complicatissimo. Non la scrivere, no, ma era solo no, per far ridere. Lo dovete sapere. Era solo per farvi ridere, perché quello conta poi alla fine. C'era una domanda. Il titolo viene scelto sempre sulla base di quello che fa più ridere, esatto. Quello che ci fa più ridere. L'album esiste in una confezione particolare con un... come lo chiamiamo, massaggiatore allegato, come lo definite, cos'è, che confezione è? Abbiamo, diciamo, fatto uscire come fanno quelli veri, cioè nel corso del festival, sì. Perché il fatto che esatto. Il fatto che le altre volte non uscisse nel corso del festival non era per una scelta, era perché siamo dei cazzoni, era accaduto sì. Perché siamo dei cazzoni, potete scrivere così, Elio le storie tese, due punti, siamo dei cazzoni. No, è un oggetto di design scandinavo, finissimo design scandinavo, ma è anche una piccola soddisfazione, capito, cioè esatto, no, per noi immaginare che ci siano, diciamo, duriamo tanto piacere, esatto, da che ci sia la nostra scritta così vicino alle persone sì. E essere vicini alle persone, alla fine ogni lettera è una microcamera, esatto, noi abbiamo collegata al nostro monitor. È una roba di tecnologia, come si dice che Barbara D'Urso è vicina alle persone che soffrono e le storie tese sono vicine alle persone che godono. Bravo, ci terremo meglio di così, non lo so. La sintesi perfetta, un ottimo titolo anche, siamo i Barbara D'Urso della musica. San Paolo, San Paolo, convertitoti nei pressi di Damasco. San Paolo, San Paolo, quante lettere scrivevi tu? San Paolo, San Paolo, ebreo ellenizzato di Tasso. San Paolo, San Paolo, per fortuna che il Signore ti ha apparso, perché tu perseguitavi i cristiani. Per questo speciale, specialissimo Sabato del Villaggio, per questo sabato in onda da Sanremo. Ci ritroviamo ancora in diretta sabato prossimo dalle 15 alle 18 su Radio 24. Grazie a Cristian Goldoni in redazione. Ancora un saluto e l'auguro di buona serata da Marta Cagnola. Questa casa.